dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Primo pallone che tocca Marco Sau dopo una partita e mezza passata in panchina. Il pareggio non ci fanno neanche non ci danno neanche il tempo di entrare dentro. Io ho preparato tutto quanto, avevi fatto tutto quell'introduzione, c'è tutta un'introduzione come si deve, e invece tacchete, pareggio del Cagliari, pareggio del Cagliari contro il Napoli a Napoli, 2-2, non una partitella qualsiasi, esatto. Ma sai perché? Perché? Lui non lo sa che tu avevi questa preparazione tutta particolare, quindi... Sai che mi sto pentendo di aver dato subito questa notizia qua. Okay. Con questa battuta qua mi hai già, sono entrato in depressione, lo so. Guarda, posso dirti una cosa? Sono già in depressione. Si rimette davanti Vettel con il giocchiede, ruota per ruota, partenza incredibile per alzare il piede Vettel, e Alonso adesso guarda, ma si mette anche lui nella... Adesso spiegami cosa ha detto. Attenzione a quell'ala anteriore lì vicino alla Red Bull. Cioè, ma come si fa? Come si fa? Fare 57 giri così, ancora bandiera gialla, successo qualcosa dietro, poi la regia ci andrà a far vedere, bandiera gialla un po' più lunga. Bandiera gialla un po' più lunga, l'ho capito. Sì, ma non si capisce niente di tutto il resto, hai capito? Cioè, a un certo punto dicono delle cose, ma si sa che devi guardare le figure, insomma, per riuscire a capire. È un po' la storia del fumetto. No, questa, perché capisci? Come diceva Conte, ci hanno smaronato per dei mesi. Stai parlando di Antonio Conte o Paolo Conte? No, di Antonio Conte. Paolo Conte non si occupa della Formula 1, scusa. Cioè, voglio dire, no. No, perché dopo che Zoff è diventato un editorialista sulla Formula 1, perché no Paolo Conte si occupa anche lui della Formula 1. Si è occupato di ciclismo, può non occuparsi di Formula 1. Assolutamente. Però intanto diciamolo, questa è Dai e Vai, questa è Radio 24 e noi andremo avanti fino alle 19. Bravo. Grazie, sono preparato. Você sabe dançar? Não? Ah, eu também não. Então vamos experimentar, né? Pra ver se dá certo. Vamos dançar. A gente começa assim, né? Vamos ver. Sottofono, perché fa molto Brasile, adesso tanto sarà tutto in Brasile, quindi è inutile che ci lamentiamo, sarà sempre comunque lì tutto quello che accadrà. Come è andata a finire nel Bahrain? Nel Bahrain è andata malino per la Ferrari, perché Alonso è arrivato solo ottavo, quarto è arrivato Paul di resta davanti a Hamilton e a Perez. Il Gran Premio del Bahrain è stato vinto da lui, no? È stato vinto da lui. Dai, lo sai, no? Sì, lo so. Da chi è stato vinto? Da Vettel? Non lo sai, non lo sai, che vergogna. Ma non è che si può seguire tutto. Guarda Luca, non parlo con te, parlo con il nostro mister di oggi, che è Luigi Cani. Pronto, mister? Buongiorno. Come sta? Benissimo, anche voi mi sembra. Sì, io parlo solo con lei perché ho qui una persona in studio che non sa chi è che ha vinto. Lo capisco. Sono momenti difficili. Mister, sentiamo dei rumori di fondo che è allo stadio. No, sono a casa. Oggi sono a casa. Così per sapere un velo di cavoli suoi, ma c'ha le pantofole o no? No, sono a letto, sì. Ah, proprio a letto, proprio stravaccato a letto. Ah, sì, ho capito. Sì. Perfetto. Mi sembra il momento opportuno per dare fastidio, insomma, in questo caso. Perché se no. Allora, e c'ha davanti il suo bel televisore 160 pollici, no? Dove vede tutto quanto. No, è più piccolo. Più piccolo, ma in HD come minimo, no? Ormai. Sì, beh, chiaro. Questo ormai è il minimo indispensabile. Senta, mister, ieri sera. Cosa vuol dire? Ma, va bene, ma neanche noi, per questo lo diciamo. Quindi. Mister, ieri sera ha festeggiato. Quei ragazzi, dica la verità, ha fatto un po' di bagordi stanotte? No, assolutamente, perché sono incontentabile, è la mia natura, non lo so, sbaglierò, non lo so. Ricordiamo che lo Spezia ha battuto 3-0 l'Empoli. L'Empoli è una squadra che stava lottando per i playoff, lo Spezia diciamo era lì nella centro classifica, un bel 3-0 rotondo in Serie B. Moderata soddisfazione, quindi abbiamo capito bene. Sì, perché... Perché per esempio ho finito la partita, tutti i ragazzi mi hanno detto, mister, ci vediamo martedì. No, ci vediamo domani, non martedì. Come martedì? Certo, scusa, già volevamo fare bella vita, come si suol dire. No, perché è così, perché è facile perdere le misure, no? Quindi... Sì. Ecco, magari non è che è confuso, magari pensavano, pensavano era già domenica, si festeggiava la domenica, perché siamo molto vicini alla salvezza, quindi, ma io vedo più avanti e... Sono quattro partite, ci sono 12 punti in palio. È bene tenere tesi i ragazzi, insomma. No, ma che ne sai, se faccio 12 punti cosa succede? Non si sa. No, si sa, glielo dico io cosa succede, che andate ai playoff, magari, no, questo, magari andate ai playoff. No, ma vicino sì. Se andate ai playoff come sesti, fate come la Sampdoria l'anno scorso, partita dei playoff come sesta, è finita in Serie A. Speriamo, perché sì, altrimenti potremmo creare qualche problema. Esatto. No, è inutile. No, è una cosa matematica che ci sta, insomma, questa è una squadra che secondo me può vincere contro chiunque in questo momento, perché sta molto bene, ha trovato gli equilibri giusti. E quindi diciamo, per quanto riguarda la sua condizione in questo momento, è sdraiato sul letto, ha festeggiato con un po' di spuma per non esagerare, ha convocato i ragazzi adesso li ha tenuti belli tesi, nel frattempo in questo momento il Torino ha pareggiato con la Fiorentina, sì. 3-3 in questo passaggio, in questo momento, disperazione ovviamente sugli spalti. E questo è Cerci, giocatore da nazionale, tanto granata sulle curve dei Viola. Avevamo appena detto, partita vivissima, una partita bellissima. Va bene, ok, ci ha convinto, nel frattempo 3-3, ecco questa qui, diciamo, partita buttata nel cesso, tecnicamente parlando, giusto? Sta parlando con me? Io sono troppo tecnico, mister? Sarei già arrabbiato sul 3-1, mi sarei già. Ecco. No, perché sul 3-0 non puoi permettere all'avversario di fare certe cose, non lo puoi permettere, non devi, se vuoi vincere qualcosa. In Italia, l'ha detto anche Galliani su un'intervista ieri, in Italia, ma nel mondo penso, chi prende meno gol vince. Proprio così, cioè... No, è così, è la realtà, insomma, la differenza reti è quella che fa tutto. Infatti, dopo c'è l'eccezione dell'anno scorso, il Pescara, che prende 60 gol, ma ne fa 90, certo. È un'eccezione. Ecco, diciamo che forse Galliani sul ruolo 3-0, 3-3 è la persona meno indicata, ricordando quello che è successo con Liverpool, però... Vabbè, ma adesso devi per forza andare lì a girare la scimitarra nella piaga, cioè che modi sono, cioè lasciali stare. No, e perché? Ma l'hanno dimenticato, già lontano quella cosa Non lì. Credo. No, Non si dimenticano quelle cose. No, quella lì rimane come incubo. Non si dimenticano mai. Lì è un incubo. Cioè, adesso tutte le partite in cui si sta vincendo 3-0, c'è un momento così, oddio, no, stiamo sotto, perché diventa poi preoccupante. Però diciamo, adesso il problema vero, adesso mister, lei ci deve aiutare. Noi che diamo ormai facciamo un appello disperato ai vari mister, perché di che cosa parliamo adesso sul campionato? Campionato ormai strafinito. Ma per quanto riguarda la promozione, sì. Per quanto riguarda lo scudetto, ho lasciato il tempo apposta per autocorreggersi. penso sempre al mio campionato. Lo so. Ecco, no, adesso... per quanto riguarda lo scudetto, senz'altro. Poi c'è un po' di lotta per la Coppa UEFA, probabilmente, per la Champions League, volevo dire. E invece, per quanto riguarda la retrocessione, è una bella battaglia fra Siena, Genoa e Palermo. Sì, però lei a un certo punto è uno abituato a tenere la tensione, cioè me l'ha appena raccontato, con i ragazzi. Avrà trovato una situazione in cui, cioè, i ragazzi ormai non c'era più niente da tenere in tensione, perché tanto non c'erano obiettivi né in alto né in basso, a questo punto come li teneva la tensione ai ragazzi? Devi trovare delle motivazioni, tipo? Che riguardano magari l'anno dopo, che riguardano quello che può essere... Devi scegliere fra i giocatori quelli che le hanno, perché poi devi far così alla fine, capire chi è che comunque riesce a ottenere motivazione alta, l'obiettivo o un obiettivo qualsiasi, devi darglielo, lo deve dare alla società, non lo so. Ma lei se ne rende conto durante l'allenamento in settimana? Sì. Cioè se ne accorge tanto? Sì, si vede. Cioè, si vedono i giocatori che rallentano, anche perché poi bisogna avere uno che metodi di allenamento ha. Certo. Io, siccome sono uno che fa parte atletica non tantissima, o quella che secondo me è giusta, e poi tante partitine a tema che sono divertimento, ma comunque devi impegnarti molto, 11 contro 11, quindi vedi i giocatori che... Sì, infatti, insomma, comunque è un po' così, insomma, la situazione. Tanto chiediamo ai nostri ascoltatori sul 349-238-6666 gli sms, se proprio vogliono fare delle domande particolarmente ficcanti al nostro mister di oggi, che è Luigi Cagni. E intanto c'è un corner per quanto riguarda il Catania, che sta vincendo il derby col Palermo, quindi Palermo, esatto. Ormai. Beh, non è detto, assolutamente. In realtà poi... Sta vincendo 1-0 comunque il Catania. Esatto, riassumiamo i risultati. Bologna Sampdoria 1-1, il Catania vince 1-0 sul Palermo, Fiorentina-Torino l'abbiamo detto poco fa, il pareggio del Torino è 3-3 il risultato, Napoli-Cagliari 2-2, Roma-Pescara 1-1, il Chievo sta vincendo a Siena 1-0. Tutto sommato ieri pomeriggio sembrava che per il Genoa fossero stati due punti persi, perché doveva vincere con l'Atalanta e in realtà con la sconfitta del Palermo e quella del Siena in questo momento quel punto con l'Atalanta è positivo. Fare risultato è sempre positivo, però a un certo punto con 5 partite alla fine qualche partita devi vincere, altrimenti non ce la fai. Prima o poi devi fare qualcosa, insomma, questo è il concetto. No, la vittoria è quella che ti fa fare il salto importante, certo. Una la devi fare. Adesso io stavo guardando il Genoa va a Verona col Chievo, sì. Il Siena invece va a Roma con la Roma, e il Palermo è... Roma che sta pareggiando, sì, diciamolo, col Pescara. Il Pescara 1-1. 1-1. E Palermo deve giocare in casa con l'Inter. Sì, infatti c'è da dire che il Genoa non vince dalla 25esima giornata, quindi sono 8 giornate, ha fatto 4 pareggi e 4 sconfitte. La cosa è strana, ma io siccome vivo in Liguria, quindi il Genoa l'ho visto tante volte, è una squadra che ha qualità, mi sembra veramente un'annata strana. Sì, cioè? È una squadra che le ha le qualità, però non riesce a quadrare, insomma, non riesce non a quadrare. Non lo so, qualcosa è successo, perché non è possibile. Li ho visti giocare bene, li ho visti fare delle partite importanti. Sa cosa ci voleva? È inspiegabile. Ci voleva un allenatore come Cagni che teneva alta la tensione durante la settimana. D'accordo. Certo. E lo faceva festeggiare, al massimo un po' di spuma, capito? Non è che è un pareggio già subito champagne. No, tutti acqua, lì. Acqua. Col pareggio, anzi, assolutamente acqua, cioè da questo punto di vista. Col pareggio naturale. Però succede, no? Ci sono dei momenti in cui ci sono delle squadre che hanno tutti, come dire, tutte le caratteristiche e che però non riescono a trovare se stessi. Mi ricordo una delle tre anni del dopo B della Juventus, dove oggettivamente c'erano dei nomi, ma che però non riuscivano, perdevano tutte le partite, non riuscivano a fare tre passaggi e via dicendo. Lì è... Ma la cosa più difficile oggi è proprio questa. Non si capisce, ma perché adesso qua dovremmo fare un discorso abbastanza lungo. Il problema più grosso del calcio italiano oggi è il settore giovanile. Non li fanno, crescono dei giocatori che quello che sono bravi, ma non gli insegnano a essere degli uomini, a essere dei professionisti, non gli insegnano ma questo è un po' il problema anche dell'università, per certi versi, è anche un problema dell'università, non è quello soltanto il settore giovanile, cioè l'approccio con i giovani in qualche modo diventa sempre più complesso, insomma, no? Ma da lì che devi partire, devi cominciare a costruire il calciatore, all'uomo devi costruire, invece all'uomo non viene costruito. Se poi pensi che a 13 anni hanno già il procuratore, diventa una cosa... diventa assurda. Poi problematico, no? Anche perché noi abbiamo avuto la fortuna di intervistare Balotelli quando era giovanissimo, che ancora nelle giovanissime. Sì, era ancora negli categorie allievi e giocava con la primavera dell'Inter. E si capiva che lui lo sapeva che sarebbe diventato poi Balotelli. Ma non è il problema, io adesso sto dicendo che il problema è il procuratore. Il problema è il giocatore in generale, l'ambiente, non riceve un messaggio solo, che dovrebbe essere quello dell'allenatore, che dovrebbe essere lui il punto di riferimento. E l'allenatore non lo è più, non è più un gioco di squadra, perché ogni giocatore è un'industria a sé. Dai e vai, non è solo calcio. I'm the type to sport shell toes, with a guayabera, con un radio de los grandes a mi lado, from the old escuela, escuchando mis cintas de rap en español, hangueando en la avenida, munching on a mango, you don't want a tango, right through, I'm letting you know, bro, que I'm considered to be one of a kind, como el coquí, así que make some alboroto, if you're proud of me, Puerto Rican, check out the delingo that I was freaking, straight from the New York street, las carreteras, I call it New York, weekend Spanglish, sin barreras, y yo no me llamo... Old Mister Luigi Cagni, con noi. Mister, volevamo capire, tra l'altro ci è arrivato un SMS, non mi fare tutti i gesti possibili, immagino. O leggo l'SMS o dico che c'è un altro gol della Fiorentina. Esatto, direi prima il gol della Fiorentina. No. mezzo qua. Finito, ovviamente appena tirato su un po' di gente, adesso dice chi è che ha segnato? Romulo o Romulo, a secondo dei punti di vista di come lo si vuole pronunciare. Mister, poi glielo chiediamo. 4-3 per la Fiorentina, intanto Della Valle impazzisce in tribuna come di solito succede. Ecco, qual è stato il giocatore più difficile da marcare? Gli chiede Lucia. Pronto, mister? Quando lei era un famoso difensore, qual è stato il giocatore più difficile che ha marcato nella sua carriera? Paolo Rossi. Paolo Rossi? Beh, Paolino. Paolo Rossi perché aveva capito che io ero un difensore, diciamo, tra virgolette, pesante. Sì, roccioso si diceva anche, no? Va bene, diciamo roccioso. Lui non la teneva mai. Andava via subito. Andava di prima e quindi è stato difficilissimo perché io ero molto forte sull'uomo nella marcatura, quindi se tenevano la palla mi davano un vantaggio. Quindi diciamo, quando dice era molto forte sull'uomo è perché non beccava mai la palla oppure beccava soltanto lui, cioè in questo caso, cioè era, in questo senso era roccioso? Ops. Ha messo giù, ecco, lo so, sono momenti così, si offendono quando poi entriamo sul personale diventa sempre un po' così, problematico. Sai che quello che ha descritto l'allenatore Cagni era il dai e vai, nel senso che Rossi appena riceveva il pallone, visto che lui era roccioso, dava via la palla e scappava. E quindi si defilava, cioè, col cavolo tengo la palla, che così tu mi fai fallo, quindi andava via velocemente e chi si è visto si è visto, il dai e vai, quindi ce l'abbiamo tutti gli altri risultati, oppure vuoi dare soltanto quello della Fiorentina? No, beh, iniziamo da quello della Fiorentina perché è l'ultimo che è cambiato in ordine di tempo, 4-3 della Fiorentina sul Torino, non so se faranno poi il DVD a Firenze, Bologna-Sampdoria è ferma sull'1-1, il Catania vince sul Palermo 1-0, pareggi per Napoli e Roma, Napoli 2-2 sul Cagliari, la Roma 1-1 sul Pescara, mentre il Siena continua a perdere 1-0 in casa col Chievo, siamo al 42esimo minuto. Pronto mister? Sì, pronto, scusi, sono stato apposta io perché lo stavo so. Parlando di come ero forte come di no, ho capito, cioè, lasciamo perdere l'argomento a quanto pare, no? Mi sembra sul concetto di roccioso in questo passaggio, cioè sono momenti difficili insomma da questo punto, però era interessante invece la gestione dello spogliatoio dei giocatori, cioè in questo caso la dei giovani giocatori che già comunque dei calciatori in generale devo dire oggi se non hai oggi è determinante la società forte. Però perché per esempio il Milan in particolare c'era il buon Gattuso che diceva appunto lì ormai arrivavano dei ragazzini e pensavano di poter decidere delle cose, cioè arrivavano i giovani, non stavano neanche dritti. Certo, c'era del nonnismo, c'è sempre stato il nonnismo dentro gli spogliatoi, no? In questo caso qua. Ma un nonnismo giusto però, perché lo era, perché era per il bene della squadra, eravamo una generazione che aveva un concetto di squadra di maglia che era diverso da quello di oggi. Sì. E quindi in questo momento io mi sono fatto tante riflessioni sotto questo profilo negli ultimi anni e non puoi più parlare ai miei tempi, non devi dirlo assolutamente che è un errore gravissimo, e devi cominciare a gestire la situazione in modo diverso, ma anche l'approccio dialettico è completamente diverso. Cioè, insomma, la gestione delle dinamiche di gruppo è comunque una cosa che dentro uno spogliatoio è determinante, con questi equilibri un po' strani, anche perché c'è il rischio che poi arrivi un giocatorino giovane che gioca benissimo e fa tipo 10-12 gol, e c'è invece uno che ha attaccamento alla maglia ma che però ormai non corre più, oppure non è in grado di reggere quel tipo di gioco oppure altre cose, e che però decide magari gli equilibri interni alla squadra, quindi diventa più difficile da gestire. Sì, è per quello che devi fare un mix giusto nella costruzione della squadra, che non è semplice. Comunque ribadisco il concetto, i settori giovanili in questo momento sono il più grosso secondo me, perché se società risparmiano sugli allenatori dei settori giovanili quando invece dovrebbero spendere di più lì e mettere gli allenatori più bravi lì. Questo è l'investimento che dovrebbero fare. Nella gestione è la società che è determinante, perché se la società ti fa sentire forte sei nello spogliatoio forte, altrimenti sei in balia loro e sei morto. E in balia loro vuol dire che c'è sempre come dire, le correnti interne, sì, no? gruppi sostanzialmente. Ci sono sempre stati, sempre stati. 5 giocatori non è che puoi, certo. È chiaro che ci sono dei giocatori con personalità, chi più chi meno, giovani meno giovani, e quindi allora se tu entri che sei forte puoi fare qualsiasi cosa, altrimenti diventa più difficile. Espulso? Adesso Torino. Vediamo un giocatore del Torino che resta in 10, però siamo già nel recupero. Ecco, mister, lei ha detto ci vuole il mix giusto dei giocatori, però in una situazione come la sua, in cui arriva in corsa, cioè non sceglie lei i giocatori, se li ritrova, quindi questo mix non lo può costruire. Come ci si comporta? Beh, è totalmente diverso. Fare allenatore quando hai una squadra all'inizio dell'anno è totalmente diverso di farlo quando tu entri in corsa, e lì fortunatamente o sfortunatamente, non lo so, sono subentrato più volte e quindi l'esperienza me la son fatta. Ieri un giocatore mi ha detto, un anziano, un giocatore mi ha detto, con lei è dura all'inizio. È chiaro che tu entri, devi buttare un sasso nello stagno e magari essere anche un po'. E lei cosa ha risposto? Vedrai la fine. non è per tranquillizzarlo, no? Mica per esempio, no, lui mi ha detto così, ma poi per dirmi che Palermo in questo momento ha segnato. Incredibile, oltre i 4 di recupero. Josep Ilicic, c'è ancora lui. Guardate che festa per il Palermo che acciuffa il derby all'ultima curva. L'ultimo pallone, eravamo già oltre i 4 di recupero. Ilicic segna un gol pesante. Ed è rissa. E subito rissa. Una zuffa da Far West nel frattempo. E subito rissa e stanno entrando dentro anche dentro l'allenatore. Sì, è entrato. C'è stata anche un'espulsione. Sì, c'è visto un gardellino rosso. Sì, dovrebbe essere, potrebbe essere Andujar, perché in questo momento l'arbitro sta parlando con Andujar. Potrebbe essere lui il giocatore espulso. Sembra molto tranquillo da questo punto di vista. Sì, molto probabilmente Andujar è stato il giocatore espulso. Dopo... Gli ha preso male, insomma. Deve aver fatto qualche cosa. Vediamo come è andato il gol. Vabbè, insomma. C'è stata una sponda di Hernandez al limite. La palla è arrivata proprio sul dischetto del rigore dove c'era Ilicic che l'ha messa dentro. Vorrei vedere il fuorigioco, però. Perché Ilicic la vedo un po'. Lo sta guardando, mister? E anche il Napoli ha segnato. Sì. Mi è saltato il decoder. In questo momento Insigne ha segnato, lo diciamo anche così serenamente. Ho sentito. Sì, Insigne ha segnato, quindi 3-2 sul Cagliari, quindi grande entusiasmo, festa anche qui in questo finale. Insomma, sicuramente poca fortuna per il Cagliari. Una cosa che mi dà fastidio sono queste sceneggiate pazzesche. Quale delle tante? Quelle quando sono tutti questi capannelli di giocatori che si abbracciano, che entrano e poi litigano. Cioè tipo quello che è successo a Catania pochi istanti fa, quindi festeggiamenti del Palermo, qualche rissa con i giocatori. Non è tutto esagerato, tutto che non c'è più la misura ed non può funzionare bene una cosa così. Io poi sono stato abbastanza all'estero a vedere, quindi vai in Spagna, se vai in Germania, se vai in Inghilterra, se vai in Francia, capisci cos'è il calcio. Il nostro non è più calcio. Vabbè, ma noi siamo latini, mister, cioè se vai in Inghilterra, in Germania, in Francia sono sassoni, vabbè, un po' i latini francesi, però. Allora io preferisco c'è bisogno di dire infatti, cioè, capito, ha ragione il mister, cioè c'è bisogno per forza, perché sei latino devi per forza comportarti in questo modo. No, anzi, potresti anche evitarlo. Grazie mister, noi ci sentiremo presto, penso, prima o poi. Grazie mille. È stato un piacere, grazie. Mister Gigi Cagni, l'allenatore dello Spezia, che ricordiamo ieri ha battuto 3-0 l'Empoli, è entrato in corsa e sta recuperando questa squadra che lottava per non retrocedere in Lega Pro. Intanto si gioca ancora a Napoli, 3-2 sul Cagliari. Dopo la grande gioia di Lorenzo Insigne il pesantissimo gol del 3-2. Va bene, abbiamo capito, cioè adesso dai, ce la fai a dire dare tutti quanti i risultati. Ma nella maniera più assoluta e tranquilla. Bologna-Sampdoria 1-1, il Palermo ha pareggiato a Catania 1-1 proprio nel recupero. Fiorentina-Torino 4-3. Sto segnando, scusa. 4-3 cioè... Fiorentina-Torino. Vai. Roma-Pescara, forse la sorpresa maggiore di questa giornata di campionato. 1-1, nel frattempo scoppia una rissa anche a Napoli. Alta rissa Napoli. Tutti in campo. Tutti di nuovo in campo e vabbè, non possiamo fare la trasmissione così. Cioè, risse ovunque, cioè è una cosa abbastanza anche piuttosto triste, devo dire, esatto. È del tutto inutile, tra l'altro. Napoli-Cagliari, non so se sei presente. Guarda, facciamo una cosa, io direi diamo la linea al GR. Non posso dire Siena-Chievo 1-0 per il Chievo? Vabbè, dillo, dai. Detto. Diamo la linea al GR, questa è Dai e Vai, non è solo calcio. Dai e Vai. Dai e Vai. Non è solo calcio. What we want and the future is certain. Give us time to work it out. We're on the road to nowhere. Come on inside. Se vuoi puoi andare, eh? Cioè, no, puoi, devo puoi andare? Anche farlo, questo sì, no, perché se cioè. Devo andare? Sì, certo, devi andare con i risultati. Ah, no, no, no, va bene, va bene, va bene. Vado con i risultati e poi vedremo anche tutti i marcatori. Ci sono stati molti, no, molti, ma abbastanza espulsi oggi. E comunque, tanti gol. Bologna-Sampdoria è finita 1-1. Catania-Palermo 1-1. La Fiorentina ha battuto il Torino 4-3. Il Napoli ha battuto il Cagliari 3-2. Pareggio 1-1 per Roma-Pescara. È stata anche un po' la giornata, sì, dell'1-1. Sì, però io faccio il fantacalcio, no? Adesso te li dico, adesso te li dico. Il Chievo ha battuto Siena 1-0. Sì, volevo dirti, Luca, io faccio il fantacalcio. Allora, no? Hai Andujar? No. Peccato, perché sennò ti saresti beccato un punto in meno, perché è stato espulso. Quindi meno male, scusa, cioè, beccato, no, ma dato che io gioco contro di te, peccato, perché ero contento. Ah, in questo senso, vabbè. Darmian ce l'hai? No. Darmian del Torino è stato espulso anche lui. Ecco. Questi sono i due espulsi del Torino. Adesso del mi chiedi se è un, esatto, giocatore del Torino. Esatto. Vabbè, certo, certo. I gol sono stati del Bologna con Gilardino su assist di Taidera e della Sampdoria Sansone. Per il Catania ha segnato Barriento su assist del Papu Gomez e Ilicic proprio nel finale. Poi scoppiata quella rissa con calci, pugni e sputi in faccia. Fiorentina Torino, sei pronto? Fiorentina Torino, perché sono 7 gol. Per la Fiorentina, Quadrado, Aquilani con assist di Borja Valero, Ljajic e Romulo. Per il Torino, Barreto con assist di Santana, lo stesso Santana e Cerci. Basta. Mi hai già stressato, con questa cosa. Non c'hai ansia che tu no, basta. Guarda, cioè, soltanto una cosa poteva stressarmi di più. Formula 1 che ovviamente si è svolta in Bahrain, e tu mi dirai ovviamente chi è che ha vinto. Certo, ha vinto Vettel. Il decimo? Il decimo è... non lo sai, non no, lo il decimo sai. No, non lo sai. È arrivato dopo, io che non lo sai. È arrivato dopo Rosberg, però il decimo. Sono per certo che Rosberg è arrivato nono. Ti dico che non lo sai, scusa. Vettel, Raikkonen, Grosjean, questo è il podio della Formula 1, ottavo Alonso. Ecco, però parliamo di perché l'anno scorso ci sono stati una serie di incidenti, sì, scontri, proteste, così questo genere. Quest'anno invece è tutto molto più soft. In realtà non è detto che sia soft. È che noi non sappiamo nulla. Esatto, per quello che sappiamo noi sembra che sia stato un gran premio soft. Cioè, quindi oltre a organizzare il Bahrain, ha organizzato anche l'informazione sul Bahrain, in questo caso, no? Sì. Cioè, questo passaggio. Noi ne andiamo direttamente nel Bahrain e andiamo a parlare con Susi Massetti, che è una ristoratrice che è lì proprio nel Bahrain. Di preciso dove ti trovi, Susi? Sono a Manama. Manama è la capitale del Bahrain. Brava, ti ringrazio, perché Luca non lo sapeva. La capitale, via, la città più grande. Ecco, è soltanto quella un po' più vasta, insomma, da quel punto di vista. Sì, esatto. Esatto. Quanto disti dalla pista di dal circuito di Formula 1? 25 minuti di guida più o meno. Ah sì, praticamente dentro la pista, sai, cioè quando non sì, c'è... Sì, ya, praticamente, voglio dire, il Bahrain è 60 km per 40, per cui voglio dire... Quindi è difficile, non è difficile stare lì in mezzo, insomma, quindi in questo, esatto, passaggio. Ecco, esatto. Senti, allora, tu intanto cosa fai in Bahrain? Cioè, tu un giorno ti sei detto, voglio andare a fare ristoratrice dove? Nel Bahrain. Giusto? No, non è successo esattamente così. Ero già un po' in giro per il mondo, dall'Europa, dall'Italia, dall'Europa agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, tra gli Emirati Arabi, Bahrain, ancora una volta Emirati, e poi di ritorno al Bahrain. Bahrain era la mia destinazione, diciamo, preferita, ecco, sì, negli Emirati. Ecco, vabbè, insomma, hai deciso. Hai delle motivazioni, sì, ovviamente, che si possono raccontare, quelle ufficiali, certo, del perché. Che il Bahrain, no, perché poi quelli personali non vorremmo intervenire, anche se sarebbe anche interessante. Non c'è nulla di personale, proprio che secondo me è un posto dove si sta molto bene, e, cioè, volendo o dovendo lavorare nel Medio Oriente, è sicuramente il paese migliore dove lavorare e vivere, ecco, sì, secondo me. Però così, no, da chi? Noi abbiamo trovato anche, ovviamente sai che in qualche modo internet ci dà una mano, sì, proprio c'è scritto, caotica, poco green, con vita culturale piatta, Manama è così. Esatto. Tra l'altro, lo sapevo. No, scusa. Quindi Manama è così, cioè, quindi ecco, però tu hai deciso Manama. Manama el Bahrein, voglio dire, è un'isoletta piccolissima, piantata a pochi chilometri, diciamo, dall'Arabia Saudita, in effetti collegata con un ponte all'Arabia Saudita. È piccola, non c'è un granché, come si dice, comparabile alla cultura italiana, alla cultura europea, nemmeno alla lunga, diciamo. Ha il vantaggio di essere un posto molto sicuro, molto safe, come si dice, dove si vive è vero, non ci sono state contestazioni quest'anno, quindi nessuna contestazione per la Formula 1 quest'anno. No, ma anche l'anno scorso, insomma, c'è qualche scontretto, una cosa che va detta è che queste contestazioni, per così dire, riguardano o sono fatte da una popolazione, da una minoranza veramente minima della popolazione, avete capito cosa voglio dire? Sì, è veramente una piccolissima minoranza della popolazione barenita, questo va chiarito, quantomeno ci tengo a chiarirlo, ecco. Sì. Per cui nessun problema, quest'anno anche a livello di business devo dire che è molto più superiore all'anno scorso, per cui dal punto di vista prettamente del lavoro, diciamo, per noi è sicuramente un'ottima cosa. Ma sono arrivati molti occidentali per seguire, o anche cittadini arabi dei paesi limitrofi per seguire il Gran Premio? Sì. Il Gran Premio del Bahrein io non me ne intendo granché, devo ammetterlo. Ma neanche noi, non si preoccupi, Susi. A detta di tanti è un bellissimo circuito, eccetera, eccetera, per cui piuttosto seguita, nonostante ora ci sia anche Abu Dhabi, proprio dall'altra parte della costa, quasi, no? Però è sempre molto seguito, per cui alberghi tutti pieni, ristoranti tutti pieni, noi non abbiamo avuto un momento di sosta per tutta la settimana, non solo il fine settimana, Senti, Susi, Gran Premio, incluso stasera. Susi, da per domani, sapere... ovviamente si vede la partenza, è una calma. Certo. Più, Susi, per sapere, ci senti, Susi? Ci senti? Sì. Ecco, volevo sapere, Susi, ma così, intanto il nome del ristorante? Il ristorante si chiama Masso. Masso. Questo, un bel masso piantato nel mezzo di Manama. Ho capito. Allora, il piatto forte di Masso? Ma decisamente il pesce, devo dire, il pesce locale che è buonissimo, la ceviche e alcuni dei pesci locali che sono simili ai nostri, si fa per dire, ma veramente squisiti. Il Bahrein è conosciuto per i suoi pescatori, diciamo. Ma che cucina facciamo? Una cucina italiana? Cucina italiana, alleggerita, forse in un certo senso moderna. Io mi diverto anche un po' con influenze, diciamo, sud-europee, per cui la Provenza, meno che la Spagna, ho avuto la fortuna di viaggiare, per cui mi diverto un attimino col cibo, però Toscana, queste robe qua, insomma, in generale, certo. Panzanella, manetta in Bahrain. Un po' di panzanella? Sì. Non va bene. Sì, cioè, panzanella la metti, la metterei comunque un po' di. Fa sempre bene, insomma. In questo caso, comunque, nella sostanza, ci hai detto che non è successo grandi cose, c'è stato comunque il pienone, quindi in realtà il tentativo, siccome già si stavano lamentando l'anno scorso che c'era stato poco turismo e che comunque gli scontri avevano in qualche modo affossato il turismo del Bahrein, in realtà è stato tutto a posto da questo punto di vista. No, quest'anno veramente abbiamo visto un notevole cambio, e in linee generali, per quello che leggo anche sui vari media, Twitter o Facebook, eccetera, la gente sembra molto più contenta. Io sono contenta. Susi, stavo sempre leggendo caotica, poco green, con vita culturale piatta, tranne a Manama, tranne dove c'è Masso. Tutti da Masso. Grazie Susi. La vita. Grazie. A presto. Grazie a voi, ciao. Beh, adesso non te ne andare via. No, io non me ne vado, resto qua, figura. Adesso no, perché volevo andare di là un attimo a prenotare da Masso per stasera. Sì, tra l'altro stavo leggendo, è andata nel Bahrain, è andata a Manama, però è partita da Chiari di Brescia, vicino in provincia di Brescia. Da dove? Caotica, poco green, vita culturale piatta anche a Chiari. Mandate pure gli sms al 349-238-6666 per quello che avete mangiato oggi sul pesce, e così diamo anche dei suggerimenti a Masso. Grazie, arriva il traffico. Dai e vai, non è solo calcio, è solo un gioco. Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Dai e vai. cancellare, ho detto di non entrare in questo modo, metti subito l'ansia, hai capito? No, no, perché avevo capito che avevate perso un po'. Che cosa abbiamo perso? Non abbiamo perso niente. La linea di questa domenica, calcio va bene, Formula 1 va bene, però dove sono gli sport che reggono l'economia di questo paese? Dove sono? Tipo calcio e Formula 1, ad esempio. No, tipo il tennis, tipo la vela, cioè non vogliamo parlare. Tu non immagini. In milioni sulla costa di Napoli. Perché la vela? Perché c'è un sacco di veli pietosi che vengono calati sul mondo della politica e non in Italia, quindi in questo caso. Cioè adesso tu mi stai dicendo che sta accadendo qualche cosa. Non so più cosa fare con voi, questa è la verità. Con noi? Sì, sì, no. Cioè, tu non sai cosa fare con noi. Centinaia e centinaia di telefonate di napoletani ho preso. Perché non ci fanno parlate di quello che è avvenuto? No, i napoletani ti ha telefonato perché Napoli stava pareggiando col Cagliari. Cosa no, scusa, cosa è avvenuto? Scusa. Cioè, Luna Rossa Sword Wish. Ah, no, perché pensavo di calcio, voglio dire. Luna Rossa Sword Wish, vincendo l'ultima race dell'America's Cup World Series di Napoli. Cosa ha vinto? L'ultima? Race, l'ultima gara. Ma come l'ultima gara questa? L'ultima gara, l'ultima prova. Ma sai, noi della vela. Noi della vela, abbiamo quelle due tre vocaboli che ci dobbiamo giocare. Non è del rugby subacqueo tu l'altro giorno? Ma questa settimana mi sono appassionato molto di vela. Va bene, allora. Quindi si è aggiudicata l'ultima race e ha agguantato a 80 punti gli americani di Oracle Team. Ha agguantato. Quindi il riassunto è che Luna Rossa Sword Wish, perché c'è anche un'altra Luna Rossa, quindi uno dei due team italiani, ha vinto insieme agli americani l'America's Cup World Series di Napoli. E buttala via, questa notizia. Ma noi a quale delle due Luna Rosse teniamo? Noi tutti e due per parte. Tutte e due? Adesso vuoi già spaccare No, io volevo rossa. Spaccare Luna Rossa. No, tu vuoi spaccare Luna Rossa. Voglio dire, tu vuoi spaccare Luna Rossa. È un periodo in cui si spacca questo paese, quindi... Smettila, non ti comportati bene, bisogna unificare. Almeno il tifo, cioè adesso dividi il tifo su quella roba lì, diventa già una problema. Scusa un attimo, poi, spaghetti alla colatura di Alici, la colatura di Alici, ovviamente, però è la colatura, giusto? Sì, la colatura di Alici, scherzi, buonissima. Posso dirti una cosa? Sbagliato gli occhiali. Ricetta la trovate sul web, questo è un attimo così, no? Per dare un taglio un po' interessante. Sì, però voi che scrivete sul 349-238-6666, cosa vi costa? Cioè avete 140 caratteri, mettete il nome e da dove telefonate. Gino, da Viterbo. Spaghetti alla colatura di Alici, se uno viene da Aosta, non è credibile, hai capito? Se mi scrive da Augusto da Aosta, da Bressanone, e mi ha fatto gli spaghetti alla colatura di Alice, diventa diverso vergogna, che averlo fatto a Taranto. Ah, scusate, posso fare un appello? Così, un appello che lo butto lì così, cioè, perché mi dà un po' fastidio. Perché il così... momento dell'appello di Sergio. Ma che cosa c'entra? No, devo drammatizzare in questo momento. Non è una sigletta per il tuo appello. Non c'ho la sigletta, perché è un appello così estemporaneo. Volevo darci importanza a questo appello. Sì, l'ho capito che vuoi dare importanza. Non so, mi sembra un po' di presa in giro. Però l'appello è di questo genere, cioè mi dà leggermente così un po', ma proprio leggero, un po' di fastidio questa cosa che siamo a 994 amici su Face. Sì. Cioè, che vi costa? Siete in sei, oggi ci saranno sei che non hanno niente da fare, che ci stanno ascoltando, non quelli che sono in macchina, che poi si fermano lì e subito si mettono a fare anche quelli che sono in macchina, secondo me, guarda. No. Scusa, ovviamente da Chiari patapim patapum l'hai fatti arrabbiare. L'hai fatti arrabbiare. Arrivano subito, grazie Chiari, finalmente l'hai fatti arrabbiare. Vita culturale è ottima, infatti un'associazione musicale che organizza concerti blues con nomi molto importanti. Paolo, grazie Paolo, finalmente Paolo da Chiari, vorrei da Chiari, fatti Chiari tra l'altro, quindi vabbè, insomma questo è il primo dato. Volevi dire qualcos'altro? Sì, perché dopo le telefonate dei napoletani ci sono state quelle dei palazzi armitani. Perché non è che puoi dire Palermo, Luca, non è che puoi dire per fare portavoce di questa bellissima città del sud Italia e chiedere a Luca Gattuso e Sergio Ferentino di parlare della semifinale di Federation Cup di tennis. Cosa? Di Federation Cup di tennis, quella che vinciamo noi, perché tanto le altre, cioè non c'è nessuno. Ma non è proprio così. Cosa ne faccio di questo foglietto? C'è un foglietto? Sì, ma ha detto 4-5-9. Io vado. 4-5-9. Prima di iniziare devo mettere 4-5-9. Vabbè. Vado, Vai. Ma cos'è? Squash? Eccoci. Questa è la Sara Errani. Senti come mi smorza la pallina. Sara Errani. Noi dobbiamo fare il servizio sul tennis con questa cosa sotto. Cioè questa. Scusa, ma quindi la prima giornata si era conclusa 2-0. Non ti senti più deficiente del solito, cioè così, no? No, cioè, perché diamo dignità a questo sport. Guarda, che siamo a Radio 24, cioè non è che devi essere credibile. No, stanno giocando tutti a rete, che è così veloce lo scambio di colpi. Sì, sì, dopo le vittorie di ieri di Sara Errani e Roberta Vinci, quindi la prima giornata si era conclusa sul 2-0 dell'Italia sulla Repubblica Ceca. Strano, perché non vinciamo mai. Terzo match in corso in questo momento dopo la pioggerellina palermitana. Perché hanno iniziato da poco la terza partita, perché pioveva. L'Errani è avanti 6-2, quindi un 7-0 sulla Kvitova. Ma quella non è ancora finita? No, siamo... Allora cosa mi fai mettere il tennis? Cioè, questa è la partita di sottofondo. È il punteggio, cioè, è la partita decisiva. Sì, vabbè. Non è che puoi farmi sentire un attimo come sarei Errani palleggio. Ecco. Vabbè. Sei convinto che questo spacca questa cosa, eh? Io penso che volevo sapere qualcosa della Liegi Bastogliegi, ma sono un illuso. Sì, perché dopo le telefonate dei napoletani e quelle dei palermitani sono arrivate anche delle telefonate francofone dal Belgio. Dal Belgio. Perché Luca Gattuso e Sergio Ferrentino non parlano di una delle gare internazionali più importanti? Sempre con noi, cioè, voglio dire, cioè, perché non parlate soltanto di calcio e di Formula 1. Esatto. È terminata la Liegi Bastogliegi. Se l'ha giudicata Daniel Martin, l'irlandese della Garmin, davanti a Rodriguez e Valverde. Quinto Scarpa. Sei pronto? Adesso lo frego. Scusa, scusa, questo Daniel Martin, questo che ha vinto, è nipote di chi è? Nipote di chi è? Di suo zio, credo, di suo nonno, dipende dai punti di vista. No, lo zio di Daniel Martin, chi è? Daniel Martin. Secondo me è il nipote di Steven Roche. Ah, ecco, bravo, bravo. No, perché mi ha chiamato Steven Roche prima e mi ha detto Steven Roche, Luca Gattuso, Steven è il fratello di Steven. Steven Roche. E Scarponi come è arrivato nella Liegi Bastogliegi? Perché noi avevamo delle speranze su Scarponi. Il primo italiano mi si è qualificato quinto, che è Scarponi. Sì, adesso anche questo dobbiamo Ferrentino tutto in un botto solo, cioè, tutto, capito, tutto, no? Tutto. Mi sembra un po' eccessivo per certi versi. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Mandiamo? Mandiamo. Che cosa mandiamo? Non lo so. Allora, è il momento clou. Cari ascoltatori, sappiamo che il vostro c'è chi ama il dressage, no? Come Sergio Ferrentino, allora, che ama alla pazzia il dressage. Sì, veloce, perché abbiamo pochissimo tempo. È giunta tempo, la vostra ora. Potete mandarci una mail a daievai@radio24.it con la registrazione di un minuto sull'evento sportivo preferito. Lasciate stare la pallavolo, il calcio, la Formula 1. Qualsiasi evento, qualsiasi cosa. La vostra nipotina ha fatto una gara di dressage ieri. Il problema è che il dressage non è ancora arrivato. Noi siamo qua che attendiamo. Dai e vai, scrivete una mail a daievai@radio24.it. Luca, con questo entusiasmo mi hai convinto. Vai. Guarda, veramente. Sabato 20 aprile al Brand Stadium di Bergen è andato in scena il derby Best i West tra Brann e Viking di fronte ad un pubblico di 11.458 spettatori. Pronti via, Use Claps blocca il match. Al quarto minuto, dalla tre quarti, scaglia un missile radiocomandato verso secondo palo, mandando il pallone sotto il 7 ed è subito 1-0. Per il raddoppio bisognerà attendere poco. Al minuto 17 Norkdell si trova tutto solo nella tre quarti avversaria dopo una bella manovra corale dei padroni di casa. Il tiro è centrale. L'effetto Beffardo però inganna Jarstein e consegna il 2-0 al Brann. La partita si innervosisce. Al minuto 26 Thun, mediano del Viking, viene graziato per un fallo da rosso. 10 minuti dopo ancora Brann. Sævarsson tira dopo un bel inserimento, ma l'estremo difensore del Viking respinge. Primo tempo, squadra negli spogliatoi sul 2-0. Nel secondo il Brann prova, riuscendoci, ad addormentare la partita. Il Viking gioca altissimo esponendosi a contropiede avversario, ma la partita non regala più emozioni e il punteggio si cementa. Finale, Brann batte Viking 2-0. Negli altri campi si segnala il primo punto del Molde campione in carica contro il modesto Odd Grenland. Da Giuseppe Enrico Battaglia per Dai e Vai è tutto, a voi studio. Siete sempre sicuri che questa rubrica spacca? Io farei un applauso a Giuseppe Enrico Battaglia, che nel suo weekend ha detto Giussi per gli amici. Ha dedicato il suo weekend. Giussi no, dai. Giussi no, dai. Enrico. Sì, esatto. Ma che te frega se non giocare? Giussi no, dai. Perché, scusa, gli amici. No. Comunque ci sono già i primi che rispondono al tuo appello, Sergio. Sì, ringraziamo Pietro Palazzini, che due minuti fa ha messo mi piace alla pagina Facebook di Dai e Vai Radio 24. Quindi siamo a 995. 5, esatto, meno 5 dalla vita. Esatto, perché ci rispondono anche i nostri ascoltatori sul 349-238-6666 puntualizzando che anche a Milano ci sono la coratura di alici e la vendono anche qui direttamente, arriva da Salerno in questo passaggio. E ce lo scrive Giorgio. Ce lo dice Giorgio, pensavamo che potesse essere anche che anche a Milano in qualche modo si potesse trovassero. Portare qualche cosa. Cosa c'è lì? Andrea Zoli, l'allenatore della Roma, credo che ci sia in discussione soprattutto un fallo su destro in area con un rigore reclamato dalla Roma che poteva portare alla vittoria alla Roma, che invece ha pareggiato 1-1 col Pescara. Ecco, mentre invece nel dire cose banali e anche abbastanza un po' superflue per certi versi, nel Bahrain se Rui tagliano una mano voglio vedere chi ci prova a fare qualcosa, insomma queste robe qua. Stai parlando di un SMS? SMS che è arrivato, insomma vabbè, sono cose abbastanza un po' vecchie e superate anche nei luoghi comuni, cioè nei luoghi comuni ormai quelli sono fuori dal comune, non vengono neanche presi in considerazione per certi versi. Sentiamo che cosa c'ha da dire invece sulla Roma. Seguità, non dimentichiamo che è stato fuori 2 mesi per un infortunio, per un'operazione a un ginocchio, e un'operazione a ginocchio per i calciatori non è una cosa di poco conto. Andrea Zoli, la vedo amarissimo, capisco. Amarissimo. Lo so, ho imparato a conoscerla. In bocca al lupo. Vabbè, ok, noi non molto, devo dire, però si vedeva che era amarissimo. Dai. Si vede che è amarissimo. Scusa, cioè, scusa, è una iena. Tu stai giocando in casa quando mancano 4-5 giornate alla fine con una squadra che nel girone di ritorno ha fatto un punto. E gli fai fare il secondo punto. E vuoi che non sia amarissimo? Guarda, non lo so, ne parleremo dopo la pubblicità del meteo. Dai e vai, non è solo calcio. Commossi, guarda, ti dico, Alessandro Chiarpotto, Simone Nenci, Michele Delle Fontane, Danilo Lattarulo, Simone Ponzi, Paolo Pieri, Mauro Sapia, Ying Yang. Ma cos'è la formazione della squadra di Lega Pro? Vittorio Cobianchi, mi è sfuggito anche le pad, adesso non lo trovo più ovviamente per tutto il tempo, però ecco, questi, ne sono arrivati anche altri. Beh, insomma, i mille ormai sono andati da un bel po' di tempo, ringraziamo ovviamente, noi portiamo a casa anche tutto il resto, se proprio volete sfondare 1100 noi buoni, tranquilli, tanto torniamo anche questa sera. Nel frattempo Antonio da Brindisi, ciao Antonio. E ciao, buonasera. Ci vuoi dire qualche cosa da mangiare col pesce? No, quello è l'argomento che tira, altro che il calcio. Tanto vabbè. Antonio, schierati, tifoso di? Antonio? Non è difficile, sei tifoso di? No, Juve. Eccolo qua. E vai Tony, fratello bianconero, dici tutto. Senta, io volevo parlare praticamente di un discorso che qualche settimana fa mi ha incuriosito, cioè parlavo della Moviola. Sì. Come ieri ho visto che c'è stata la visita di Ronaldo a Juventus Stadium. Sì. E si è tornati puntualmente a parlare del gol di Ronaldo. Del fallo di Giuliano su Ronaldo. Sì, rigore. E ci sta. Io però da qualche settimana mi chiedo, ma è uscito fuori il discorso che il famosissimo gol di Turone, anni è stato detto, certo, che era, cioè quella tutta quella storia lì, e si è creato l'astio che dura da 30 anni tra romanisti e juventini, soprattutto da parte della dei romanisti, si è scoperto praticamente per bocca di Sassi che era stata comunque taroccata la Moviola per far passare quel gol. Per come alla fine poi è passato. Cioè io mi dico, perché creare queste cose e poi magari dirlo dopo tanti anni, non riesco a capire, voi da giornalisti, secondo voi, no, aspetta, piano con le offese, oh, Antonio, piano con le offese. No, no, non sto offendendo, sto dicendo soltanto perché si è camuffata la moviola e si è fatto passare un episodio X per Y, e vedendo poi che negli anni su quell'episodio sono andate tantissime polemiche. Antonio, ti rispondiamo per radio, grazie. E diciamo che c'è. Allora, tanto tu non puoi parlare. Ma perché? La Santifila Sandoria. Appunto, vuoi, io sono indipendente, autonomo. Sono la terza. Smetti, io sono il casco blu dell'ONU, sì, in questa situazione. Ne sei beccata una, voglio dire. Cioè, sì, il casco blu in Jugoslavia, appunto. No, parliamo di cose serie. Allora, intanto lì è stata una persona che ha taroccato. Cioè, sì. È stato un tecnico romanista, no, che ha taroccato il gol di Turone, insomma, quindi poi in realtà la cosa non è mai stata chiarita, cioè, per quanto Sassi abbia detto che era stato taroccato nella sede di Roma, in realtà l'aveva fatto vedere alla Domenica Sportiva a Milano in un modo, poi a Roma l'ha fatto, poi è arrivato il Telebin, cioè, a me la cosa è sfuggita, non... il fatto che è sfuggita a te, no, questo non fa testo. Diciamo che se Sassi dice, guardate, che quella roba lì che è stata un po' ritoccata, sì, non possiamo che far fede a Sassi, sì, cioè, che mi sa che è l'unica cosa che possiamo chiedere a una persona, anche perché non so neanche se c'è il tecnico da quella parte. L'altra domanda, perché succedono queste cose, non ho idea, cioè nel senso che penso che non è che ci sia un complotto, non è che c'è una cosa che viene buttata lì adesso, poi tra l'altro ormai è difficile tentare di mascherare o di ricostruire dopo tutti questi anni, sì, ma soprattutto quello che accade adesso, ormai ci sono 25, tra l'altro non so se hai visto il gol di Cerci, sì, che golasso, scusa, l'ho rivisto adesso in questo momento, guardatelo anche voi perché non è niente male, in questo passaggio può succedere qualsiasi cosa, cioè, però è anche vero che tutto quello che accade viene visto. Io tra l'altro trovo assolutamente imbarazzante i giocatori che fanno finta di cadere quando ormai ci sono 12 telecamere piantate su di loro proprio in quel momento in area. Oggi un episodio bellissimo di Valdés, cioè, che ha fatto imbarazzante. Stiamo parlando di Inter Parma, fallo di Valdés su un centro campista dell'Inter, si vede chiarissimo che Valdés non si era fatto niente, inizia a rantolare sperando che l'arbitro non lo ammonisca, viene sistematicamente ammonito dopo un secondo in piedi che è corretta per il campo senza alcun problema, non si era fatto niente, quindi no, effettivamente è vero, cioè questo aspetto del fatto che non si rendano conto che con tutte le telecamere che ci sono più o meno vengono quasi sempre chiamati. Spacca, io, tu hai detto spacca? Non lo so, perché uno dice, perché ti piace tanto dire spacca con una domanda? Ah, lo so, no? Cioè, uno che ha detto, sto facendo una domanda assolutamente del... però perché ti piace dire spacca? Ho detto spacca. Hai detto spacca, sì. Quando? No, non lo so, adesso poi andiamo a prendere la registrazione. Sai, vabbè, cosa facciamo? Dopo guardiamo la moviola e vedrai che riusciamo a capire se hai detto spacca. Almeno o no. Quello. Adesso abbattiamo lentamente questa musica che crea troppa allegria in questo passaggio, parlando di cose serie, parliamo direttamente col direttore generale della Lega Calcio, Marco Brunelli. Buongiorno a lei. Pronto? Buonasera a tutti, buonasera. Come va? Tutto bene? Sì, mi dispiace farvi abbandonare la musica, però. Sì, la tengo sotto foto. Le piaceva, dottor Brunelli, questa musica? No, era carina. È un po' strana, però, insomma, un po' così, cioè, in qualche modo. Allora, la teniamo buona, insomma, comunque, tra virgolette. Grazie per aver risposto a questa telefonata, perché noi siamo un po' incuriositi su questa notizia che è già circolata e che in qualche modo ci ha già subito portato a fare degli schemetti, per capire che cosa potrà accadere in un eventuale futuro. Parliamo del progetto del campionato delle riserve, cioè sarebbe una specie lato B della Serie A, mi viene, sì, da dire, no? In questo passaggio. Di che cosa stiamo parlando di preciso? Cioè ci sono già una serie di squadre, di club che hanno già aderito, si può pensare di, se abbiamo capito bene, ma ci corregga ovviamente, che il lunedì o un altro giorno, poi si vedrà, i giocatori che non hanno giocato e che sono le riserve, magari infarciti anche con qualcuno della primavera, possono fare un campionato tra virgolette parallelo, giusto? È così? In parte sì, io partirei da una da una considerazione molto semplice: non lo chiameremo certamente campionato riserve, perché come certo, dire, chiamarlo campionato riserve a due? Vuol dire già partire, non lo so, stiamo pensando comunque qualcosa che lo collochi esattamente per quello che abbiamo in mente che debba essere. Allora, noi abbiamo un'esigenza, la nostra squadra ha un'esigenza molto precisa in un momento in cui stanno fortemente puntando sui giovani. Credo che mai come quest'anno ci sia stato il lancio di tanti giovani talenti al campionato di Serie A, abbiamo delle nazionali giovanili molto forti. C'è un'esigenza che in parte è dettata anche dal clima economico, ma in parte è una scelta tecnica di puntare sui giovani. Ebbene, c'è un problema: quando finiscono i campionati giovanili, escono dalla categoria primavera, spesso non sono subito pronti per giocare in Serie A. Di conseguenza, al momento l'unica alternativa è mandarli, come si dice, a farsi le ossa in un campionato di categoria inferiore, Serie B, prima o seconda divisione. In realtà sta crescendo l'esigenza delle società di in qualche modo continuare a curare direttamente la crescita tecnica di questi giovani calciatori, quindi continuare a tenerli in una squadra che faccia direttamente riferimento alla squadra principale e farli partecipare a un campionato vero. Non è un mistero che la nostra idea, prima proposta, la nostra idea era quella di adottare un sistema tipo quello che è in vigore in Spagna, cioè di consentire all'Inter B, il Milan B, la Lazio B di partecipare al campionato professionistico di categoria inferiore, non so, prima divisione o seconda divisione. Quindi Lega Pro. Con la possibilità poi di andare avanti o indietro con il meccanismo di promozione e retrocessione normalmente, ovviamente col limite di non poter arrivare in Serie A, perché certo, non è immaginabile che il Milan A e il Milan B giochino nella stessa serie. Questa proposta è stata bocciata? Questa proposta è stata bocciata dalle leghe sottostanti, perché lo ritengono controindicato da diversi punti di vista. Questo è il paese dei 100 campanili, questo è un paese dove avere comunque squadre che in qualche modo siano fuori classifica non è culturalmente accettabile. Ci sono tutta una serie di controindicazioni, per cui comunque diciamo anche che questa cosa presupporrebbe una riforma complessiva dei campionati. Non è che si possono prendere 10 squadre di B, di Serie A e mettere in Lega Pro, bisognerebbe riformare tutto il sistema dei campionati professionistici, è una cosa complessa. E perché in Spagna funziona, ad esempio? In Spagna funziona perché sono partiti molto tempo fa, perché hanno approfittato di una riforma del campionato, l'hanno inserito in maniera organica, si sono dati delle regole, diciamo che hanno provato e hanno scoperto che la cosa funzionava, era quello che proponevamo noi: proviamo, vediamo, troviamo la collocazione, partiamo dal basso, partiamo dalla seconda divisione e poi vediamo, ne mettiamo un po', non necessariamente stiamo parlando di trasferire o inserire 20 squadre. Quali sono le squadre che hanno già aderito? No, allora, c'è un interesse diffuso. Noi abbiamo fatto un pre-sondaggio e tranne pochissime ci hanno detto tutti che sono interessanti a capire di che cosa stiamo parlando. Sono lavori in corso, noi stiamo ripiegando su una formula che appunto non sarà quella dell'inserimento delle squadre nei campionati professionistici inferiori, ma sarà quella di organizzare un campionato autonomo che avrà una forte valenza giovanile, comunque avrà un limite di età con qualche fuori quota, ma sarà un campionato under 23 o un campionato under 21. C'è un interesse di, io credo che potrà essere un campionato a 14 o 16 squadre. Ma non c'è ancora detto chi è che ha aderito? No, ma non esiste una lista. State ancora verificando. Siamo ancora veramente in fase embrionale. Per il momento abbiamo solo incassato il no della Lega Pro e della Serie B. Ecco, resti con noi, magari puoi prendere anche qualche altro pezzo musicale. Palla, tenna palla, tu eri innamorata, dolcissima fanciulla, di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, compiato ed addestrato per la calcia di un pallone. Allora balla per me, bellina, palla, che palla. Dopo palla lui ti ha rubato il cuore. Palla per me, bellina, palla, piangi sulla mia spalla, dai sopra il tuo dolore. Palla per me, bellina, palla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Palla a me, bellina, palla, che sei cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Sa come come sono questi giovani che fanno queste canzoni, mister, anzi, direttore generale della Lega Calcio, Marco Brunelli, qui con noi, insomma, sono quelle canzoncine che vengono messe, che poi vanno anche a Sanremo, insomma, sono quelle cose che tanta gioia ci danno. Balla Velina Balla, non vorrei sottolinearla, però lo metterei comunque spesso. Torniamo a noi, torniamo a questa ipotesi veramente curiosa e interessante, dobbiamo dire, perché oggettivamente è interessante, far giocare le riserve in una specie di campionato da qualche parte, insomma, tra di loro le riserve delle squadre di Serie A, però nella squadra di Serie A per il momento non hanno ancora, non abbiamo ancora dei risultati, non c'è ancora qualcuno che ha dato sì, ci sono. Parlato il dottor Brunelli poco fa, ha parlato di circa 14 squadre, quindi alcune di quelle di Serie A non dovrebbero far parte di questo campionato, giusto? Noi siamo abbastanza fiduciosi che alla fine si riesca a ricreare un campionato primavera con un limite di età più alto di 3 o 4 anni, quindi sostanzialmente ricreare un sistema come c'è in Inghilterra, per cui adesso ci sono un campionato under 17, under 19, fare un campionato under 21, under 23, con all'inizio una partecipazione aperta a tutte le società in maniera facoltativa, se qualcuno non ci crederà e non vorrà partecipare sarà libero di non farlo, ma noi siamo fiduciosi che almeno 14 o 16 alla fine aderiscano. Non esiste una lista al momento perché stiamo ancora ragionando di ipotesi alternative, però l'idea forte, ripeto, non è credo né giusto né corrispondente a quello che abbiamo in mente chiamarlo campionato riserve, perché non saranno le riserve ma saranno i migliori giovani che non trovano più spazio nel campionato primavera perché hanno raggiunto i limiti di età. Ecco, qualche giorno fa sulla Gazzetta dello Sport era uscito un articolo che riguardo di questo campionato, si diceva che uno dei problemi era logistico, nel senso che fare giocare Catania-Palermo di nuovo al lunedì fra queste squadre avrebbe dei costi, quindi si pensava di fare dei raggruppamenti, è vero? Può essere, è una delle soluzioni che stiamo pensando. Per esempio, un'altra soluzione interessante, quella il lunedì probabilmente sarà il giorno di riferimento, è corretto, perché è un giorno che oggi è libero tranne qualche eccezione da partite. L'altra idea è quella di consentire alle società di indicare come campo di casa, evidentemente non il loro stadio principale perché non avrebbe molto senso, tranne forse per qualche partita, ma di poter andare in giro, renderlo itinerante sul territorio, quindi farne anche un elemento di radicamento sul territorio, perché potrebbe essere interessante per alcuni paesi dell'Interland, per alcune città della provincia, avere la prima squadra che gioca con altre squadre di Serie A a livello giovanile, certo, e si sposta di qua e di là. Quindi potrebbero essere delle implicazioni anche al momento non considerato o sottovalutato. Facciamo un esempio molto pratico. L'Inter oggi col Parma giocava. Col Parma. No? Ecco. Sì. Tutte le riserve, quelle ufficiali, sono tutte quante in infermeria, esatto, sostanzialmente. Esatto. E quindi diventa difficile. Però c'è un settore giovanile molto, molto, molto, molto ricco di talenti. Quindi le integriamo con la primavera? Ne hanno ancora, diciamo che hanno sì, ampio bacino qui attivo. Sì, perché ne hanno comprati talmente tanti negli anni d'oro. Però la cosa vera è che si può integrare quindi con la primavera tutto. Giusto? Si può allora la base dovrebbe essere un nucleo predominante di giocatori under 23 integrati con giocatori più giovani, ma anche con 4-5 fuori quota che quindi potrebbero essere anche calciatori di prima squadra che in quel momento non stanno giocando perché rientrano da infortuni. No, io pensavo all'ultimo anno di Del Piero che se l'è passato in panchina, cioè gioca bel fuori quota, però qualche fuori quota possiamo tranquillamente riservare. Sì, qualcosa, ma anche perché poi mi sembra che poi è anche poi l'obiettivo, no? Cioè avere un fuori quota come quello, cercare di bloccarlo per un difensore, deve essere una bella esperienza. Noi la ringraziamo moltissimo. Deve essere formativo, più formativo di quello non credo che sia niente. Senta, dottor Brunelli, velocemente, a livello di tempi, realizzazione di questo campionato? Faremo una riunione, penso definitiva, per stabilire la formula nella prima decade di maggio. Entro la fine di questa stagione ufficializzeremo le decisioni, perché se vogliamo, come pensiamo, partire dalla prossima stagione, entro giugno dovremmo aver definito tutto qua. È arrivato un sms al 349-238-6666 solo per lei, e noi la dobbiamo leggere per dire bene il campionato riserve. Dottor Brunelli, mi chiedevo, non io ma il nostro ascoltatore, quanto ci sarà la riduzione di Serie A e anche in B. Si dispera del numero di società. Cioè, quando è che insomma le squadre saranno ridotte, sia in A che in B? Ma bella domanda, Non è come dire, è un argomento che è in agenda perché se ne parla, si incomincia finalmente a parlare. È più difficile ovviamente da farsi che da progettarsi, perché serve un larghissimo accordo a livello di Consiglio federale che al momento non c'è. Però al momento la Lega Pro ha già fatto la sua riforma, scenderà in 2 anni a 60 squadre, erano 90 qualche anno fa. La Serie B ha già deliberato che gradualmente da 22 scenderà a 20. In Serie A si comincia timidamente a valutare l'opportunità o meno di affrontare questa questione, ma potrebbe essere non lontanissimo il momento in cui ci si metterà mano. La ringraziamo moltissimo. A sentirci, a presto. Le faccio sentire un'altra canzoncina, Guardalo, grazie. Adesso è nudo come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, il suo linguaggio crudo. Marco Brunelli, direttore generale della Lega Calcio, qui con noi, e ci ha raccontato questa cosa che non è male, devo dire. No, ma soprattutto la cosa interessante è che si dovrebbe mettere in atto in tempi brevi, cioè già a maggio ci sono queste riunioni e quindi dalla prossima stagione avremo anche le partite del campionato parallelo a quello di Serie A. Non possiamo considerare una rivoluzione, ma sicuramente una piccola riforma interessante. Sì, no? Poi ha detto che si sta discutendo e sta andando avanti la discussione per la riduzione del numero di squadre sia in A che in B. Ecco. Azzurro, mentre si ecco, volevo dire soltanto ad Anna che ci ha mandato un sms al 349-238-6666. Io capisco che ci sono le radio di flusso e quindi le trasmissioni non vengono ascoltate fino in fondo, ma vengono sentite, così si insegna all'interno dell'università. Tu ci stai sentendo, ma non puoi permetterti di dire che non ci sono juventini in questa trasmissione. Se c'è una cosa chiara è che uno tifa Sampdoria, l'altro tifa Juventus e soprattutto, vabbè, poi c'è Venezia, Cancellara, sì. Fuori concorso, esatto. Insomma, Anna, come casualmente adesso siete in Serie A? Abbiamo fatto gran parte. Ganassa, ti ricordo che pochi anni fa abbiamo vinto anche lo scudetto. Sì, ma mi ricordo che anche pochi anni fa eri in Serie B. Scusa, ma cosa vuoi? Pochi anni fa eri in Serie B, anche tu, volevo dirtelo. Sì, ma di passaggio, ma perché noi vogliamo provare tutte le esperienze, hai capito? Vedi che subito si lamentano, cioè, sì. Che palle, altro calcio anche lunedì, ma non è che sei obbligato a vederlo, cioè c'è il calcio, non è che devi per forza accendere, cioè non è che siccome c'è il film alla televisione, cioè tu vai per forza a vederti il film tutte le sere. Ci sono i reality, se a uno non piacciono i reality non se li guarda, poi puoi anche criticarli, però tra non l'altro guardare. Questa cosa, anche il calcio anche lunedì, come diceva un nostro carissimo amico, sì. In questo caso dice, non è che tu quando guardi il film il venerdì, poi il sabato no, l'ho già visto ieri, basta, no? Cioè, puoi cambiare film, come anche nelle partite, si cambia anche partita. Quindi in realtà, cioè, non è che il calcio deve stare soltanto 3 giorni alla settimana e poi basta. No. Cioè, come tu vuoi vedere tutte le sere un film, oppure vuoi vederti tutte le sere la storia Siamo Noi, no? Esiste? Sì, esiste. Ci sono fior di canali con i documentari storici, tutto quello che vuoi. Cioè, non è che dici, l'ho visto ieri sera, adesso non posso rivederlo perché bisogna a piccole dosi, insomma. No, cioè, il calcio ci può essere in tutte le sere. Attenzione, andiamo a beccare anche Sannino del Palermo al volo. Sì. Chi ha fatto calcio sa benissimo che è nel momento in cui credi che sia tutto finito, basta un là che ti si apra la strada, quelli che non hanno fatto calcio, la luce, quello che è successo a noi oggi. Ilaria, Paolo, torniamo tra poco a Iachini invece. Sì, Iachini. Spostiamoci, andiamo a Siena con Mario Giunta. Aia. Mario. Aia, questa triste. È aia tristissima. Sì, con Iachini per parlare di una sconfitta, quella del Siena pesante sì. per la vostra pesante, classifica, con qualche polemica, soprattutto per l'episodio del gol annullato a Paci. E chiariamo subito, il fischio dell'arbitro Valeri è arrivato prima che il pallone entrasse in rete e il braccio indicava l'irregolarità di Paci nei confronti di Cesar. Ma quindi? Non sto qui a lamentarmi, no, perché non l'ho mai fatto, quindi non lo faccio adesso. Mi interessava. Hai capito? Non ho neanche rivisto l'episodio, so solo che i ragazzi hanno chiesto. E noi stiamo vedendo le immagini, possiamo dire che gol giustamente annullato. Sì, perché mette il braccio sulla spalla subito, di Paci. Quindi subito. Perché la squadra ha fatto un'ottima gara, ha creato diverse opportunità per andare in gol. peccato, siamo stati un po' ingenui sull'occasione di Pellissier, no, perché lì l'avevamo preparata, dovevamo prestare più attenzione. Cioè, i nostri ascoltatori, subito, pom, scusate, ci date sei amicizie, così, su Face, queste cose qua. Sono arrivate. Sono subito arrivate, appena mi hanno detto, oh, grazie per aver già raggiunto i 1000, queste cose qua. Niente, c'è stata un'inerzia fino a 1008 e poi si sono bloccati. Ho detto, allora non hanno più bisogno. Vabbè, è terminata la spinta tanto propulsiva. Cari ascoltatori, noi abbiamo sempre bisogno di voi, del vostro affetto. Ma nel frattempo comunque potete comunque continuare a mettere ovviamente messaggi e soprattutto accettare e lanciare le vostre amicizie, anche perché noi vi seguiremo ancora fino in fondo. Dai e vai, non è solo calcio. Ciao! Show nice. Cos'è che ha detto, scusa? De Laurentiis, cos'è che ha detto? No, De Laurentiis ha scritto, lui adesso ha scoperto Twitter da qualche mese a questa parte. Ha appena scritto su Twitter: questa vittoria la dedico a Cellino, Astori e Nain Collan. Cioè, polemica. Polemica. Una roba pazzesca. Poi comunque adesso lui non può rispondere, perché può rispondere adesso Cellino, sì. Cellino, sì. Tranquillo, può rispondere. Figurati, però meglio che stia zitto, secondo me. Può talmente a querelato il sindaco di Cagliari, figurati, se non può rispondere. Certo. Ma poverino, ma che roba. Ma con tutte le cose che c'è da fare, cioè, è proprio il sindaco di Cagliari di fare là. Che posso dire? Cioè, io quando penso a quella cosa lì, no? Sì. Cioè, penso che nei prossimi anni ci sarà la Confederation Cup, sì. Poi penso che ci sarà i mondiali, sì. Poi penso che ci saranno le Olimpiadi, sì. Tutto questo in Brasile, e credo... A me sai cosa mi viene subito in mente? Mi viene subito in mente l'Expo. Ce l'avranno fatta, ce la faranno, riusciranno i nostri eroi a fare qualcosa. Cioè, così di botto, cioè, capito? No? Cioè, dice, ma dai, non è possibile, no? Cioè, devi fare tutti gli stadi nuovi per i mondiali, poi devi fare tutti gli impianti sportivi nuovi per le Olimpiadi. Ma comprare tutti i palloni, ad esempio, no? Cioè, ma quanti palloni devi comprare? Cioè, voglio dire, insomma, diciamo chiaramente che il prossimo futuro, tutto quanto allo sport, guarderà il Brasile, guarderà direttamente soltanto il Brasile. Ora, noi ci anticipiamo, diamo uno sguardo un po' prima, se proprio volete andare a fare un giro fatelo adesso, cioè, in Brasile, no? Perché poi dopo comincerà subito i prezzi subito, gli alberghi saranno sempre occupati. Ma insomma, se vogliamo guardare il Brasile, se vogliamo guardare in questo caso, in questa prima parte dedicata al calcio, Confederation Cup a giugno, metà giugno fino alla fine di giugno, esatto. E poi dopo i mondiali, In questo caso noi ne parliamo con l'unico che ci illumina d'immenso quando noi lo sentiamo. Primo, perché ovviamente è un grandissimo giornalista; secondo, perché è un fratello bianconero. Scusami, no. Luca. No, è successo che Darwin Pastorin è qui con noi. Pronto Darwin? Ciao fratello Sergio, ciao Luca. ciao Darwin. Scusa, sono cose che succedono. No, ho capito, ma sono cose importanti. No, chiariamo, perché poi dopo diventa, sai che qui manca trasparenza nel mondo, e quindi non soltanto noi siamo trasparenti. Dichiariamo immediatamente fratello bianconero. Ecco, fratello bianconero, prima di affrontare l'argomento Brasile, chiedo di commentare il tweet che ha fatto Luca Antonini poco fa. Pronti per scendere in campo, carichi, grintosi e vogliosi di batterli. Vabbè. No, cosa poteva, scusa Darwin, poteva scrivere? Ma voglio dire, ma noi abbiamo molta, siamo buoni, insomma, sì, siamo generosi, sì. Siamo... No, è che tanto Antonini, che cosa poteva scrivere? No, guarda, siamo tristi, non abbiamo voglia, sicuramente perderemo. Ragazzi, no. Guardate la classifica. Sì. Lascia va stare. Bene, ma noi... No, noi parliamo d'altro, parliamo oltre, andiamo oltre, parliamo del Brasile, che è la cosa che ci interessa, insomma. Che sta accadendo là? Ma ragazzi, tante cose. Intanto i 12 stadi sono ormai pressoché pronti. Il primo... inaugurato fu quello, se non sbaglio, il Mineirão di Belo Horizonte nel dicembre del 12. Adesso stanno andando avanti tutti. Io ho un occhio particolare ovviamente per lo stadio di Brasilia, perché è dedicato al grandissimo Mané Garrincha. E tra l'altro ci sono diverse novità, a parte che il Brasile fu all'avanguardia anche nel 50, quando costruì il Maracanã di Rio, 220.000 sì. Spettatori, anche se poi quel mondiale del 50 fu un mondiale amaro. Stadio che nel 49, quando era nel pieno, ancora nel pieno della costruzione, colpì la fantasia di un portiere che si dilettava a scrivere, cioè Albert Camus. Che giocò portiere in Algeria. Però, e poi, tra l'altro, ecco, scusa una cosa, Darwin, però dentro 220.000 persone nello stadio. Tu ci sei stato in quello stadio? Sì, sì, ci sono stato, tra l'altro, anche a vedere una partita quando giocava il dottor Socrates, dopo l'esperienza italiana, e che era Flamengo America, c'erano 900 persone. Ecco, ma quelli lassù in cima che cosa vedevano? Vedono dei puntini in movimento. Ah, ecco. Però se uno può fare, sì, però immaginate stare in quello stadio con 900 persone a vedere una partita. Poi i problemi, intanto il Brasile adesso è all'avanguardia anche perché per 900? Perché ce n'era 900 quando era un momento di grande crisi del calcio brasiliano. Cioè tu in 900 persone hai visto, una roba pazzesca. Una cosa che senti solo nell'immensità. Sì. No, depresso, forse il mare o il deserto ti dà la stessa sensazione. Io l'ho inviato di Tutto Sport per intervistare il grande dottor Socrates, e fu una roba incredibile. Sai, poi io sono tra l'altro tifoso, come sapete, anche del Palmeiras di San Paolo, sì. La squadra del mio amico José Altafini, che quest'anno, certo, in Serie B. Vabbè, lasciamo perdere, non tocchiamo questo. Allora, gli stadi ci sono delle novità importanti, ad esempio lo stadio Arena Pernambuco di Recife sarà il primo impianto verde del calcio. In che senso impianto verde? Con un impianto fotovoltaico, quindi immaginate che cosa... Ecco, che compatibile cosa, insomma. Compatibile, e non solo, anche il Morumbi di San Paolo avrà sedili fatti con la canna da zucchero, quindi col materiale al 100% rinnovabile e riciclabile. E di San Paolo ci è arrivato adesso sul nostro SMS 349-238-6666, ci segnalano che San Paolo si candida anche all'Expo 2020. Cioè, ma questo, tutto, per ma dire, questo cioè, è il grande successo di Lula e della presidentessa Dilma, quindi voglio dire un Brasile che sta facendo furore dappertutto. Poi ci sarà anche la settimana con il Papa Francesco, quindi la settimana dei giovani cattolici, eccetera. Però i problemi ovviamente non mancano, Luca e Sergio. Sì, come no? Perché di recente abbiamo visto la partita Atletico Mineiro, dove c'è ancora nonno Ronaldinho che gioca, la partita è finita 5-2 contro l'Arsenal di Calandi, squadra argentina. E ricordate, no? Tu con i poliziotti. La polizia, diciamolo con i nostri ascoltatori che non hanno visto, la polizia a un certo punto, i giocatori hanno iniziato una specie di piccola rissa, e la polizia ha pensato bene di intervenire pesantemente con i caschi, queste cose qua, e fino a qua niente di nuovo. Però il problema è che ha cominciato a tirare fuori, a puntare il fucile. Vitra. E poi non solo, nello spogliatoio dell'Arsenal, ad un certo punto uscì fuori una sedia dalla finestra contro i cronisti che aspettavano. Diciamo che ci sono problemi di sicurezza, ci sono i problemi ancora per quanto riguarda la violenza, non mancano le polemiche, anche perché immaginate il fastidio da parte della destra storica di fronte a presidenti di sinistra che sono riusciti a portare di tutto e di più in Brasile, ed ora è la sesta economia più importante del mondo, quindi c'è un fastidio enorme, stanno cercando di trovare tutti i difetti di questo mondo. È vero che vengono spesi in questo momento tanti soldi per costruire gli stadi per il calcio e gli impianti per le Olimpiadi, però tutto questo sta dando anche molto lavoro anche a chi prima lavoro non ne aveva, quindi ben venga il mondiale, ben venga l'Olimpiade. D'altra parte il Brasile ormai è diventato un diesel di tutto il continente e continua ad andare avanti in maniera assolutamente come se fosse veramente un vero caterpillar e non si riesce a fermare, anzi non si ferma. Giustamente, resta con noi perché dobbiamo prima parlare di traffico qui. Dai e vai, non è solo calcio. Un gioco, poi. Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Non è solo un gioco, ne parliamo con Darwin Pastorini, in particolare in Brasile, che è diventato ovviamente anche un evento economico, un motore economico particolarmente importante. Cioè stiamo parlando della Confederation Cup che arriverà a giugno, poi i mondiali, poi le Olimpiadi, adesso ci segnalano l'Expo, probabilmente ci sarà di tutto lì dentro. Allora, Papa Francesco mi ha detto. Esatto, che non sottovaluterei questo. Diciamo aspetto. In Sud America molti giornalisti si stanno trasferendo dal Cile, dall'Argentina, proprio in Brasile per seguire tutti questi eventi. Ma ci sono anche notizie di nuovi corrispondenti italiani, ma anche perché il Brasile per i 2 anni e mezzo diventerà il centro dell'economia, il centro dello sport, il centro della religione, e per poi tutto il fascino che ha da sempre il Brasile. Al di là di tutto questo è diventato veramente il cuore pulsante del Sud America e anche una nazione modello, perché è stata la prima a tirarsi fuori dagli anni bui e a tirarsi fuori da un punto di vista appunto delle nuove risorse. Poi il progetto di Lula, ricordiamo, un presidente che era il leader del Partito dei Lavoratori, un operaio metallurgico pernambucano, diventato presidente dopo che hanno fatto di tutto per non farlo eleggere, soprattutto i poteri forti, adesso questo Lula che ha cominciato col progetto Fame Zero, col fatto di dare nuova dignità soprattutto ai poveri, ha portato il Brasile a diventare un autentico gigante senza più nemmeno la presenza degli Stati Uniti, che grazie al Brasile non considera più il continente latinoamericano il proprio cortile. Ecco, senti Pastorin, una delle notizie di cui si è parlato nelle scorse settimane è questo incidente, tra l'altro, che c'è stato proprio nello stadio rinnovato del Palmeiras, che doveva essere quello in cui sarebbe dovuta allenare l'Italia, lo stadio, l'Arena Palestra, in cui è morto un operaio, è crollata una parte della tribuna, eccetera. Questo che significato ha? Cioè un incidente così isolato oppure c'è qualcosa rispetto a... Ma c'è tanta polemica per quanto riguarda ovviamente anche la sicurezza sui posti del lavoro. Tenete presente che in questo momento in Brasile ci sono centinaia di cantieri aperti. È ovvio che questo è stato impressionante, la morte di questo operaio, tra l'altro in uno stadio nuovo, in uno stadio moderno. Tra l'altro tutti gli stati non saranno più come il vecchio Maracanã con 220.000 spettatori, ma sul modello dello stadio della Juventus, guarda caso, ci saranno dai 40-45.000, 70.000, massimo 75.000 spettatori, far diventare stadi anche dove è possibile controllare le persone per evitare qualsiasi tipo appunto di violenza. Però ci sono tutti questi cantieri aperti, quindi voglio dire il rischio è sempre grande. Ma proprio sul fatto della sicurezza il governo si è impegnato ancora di più dopo anche questo dopo la morte di questo operaio. Darwin, come tu immagini con l'avvento di tutti questi eventi, scusate il gioco di parole, porterà ad avere a sentire la nostra voce, quindi saremo più croce che delizia, speriamo un po' di delizia, ti continueremo a telefonare quando volete, per me è un piacere in continuazione per sapere come per aggiornare tutti in questa fase. Io vi tengo informati direttamente dal canavese brasiliano. Dal canavese brasiliano, questo mi sembra veramente inquietante. Grazie, a risentirci, a presto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ecco, domanda. Che squadra gioca? Quella squadra lì, una squadra internazionale, quindi nell'Inter mi verrebbe da dire. Sì, lui è tifoso Inter in questo caso qua. Inter. Però in questo momento, tanto per capire, su Sky c'è Strada Gino Strada, fondatore di Emergency, che in questo momento in realtà credo che stia presentando la campagna di raccolta fondi con gli SMS per finanziare Emergency. Ma mi sarei aspettato di vedere Emergency costretta in qualche modo a lavorare in Italia, perché in Italia oggi ci sono milioni di famiglie che sono senza reddito, senza lavoro e quindi non possono neanche più permettersi di curarsi. Questo è un po' strano, quello che tra l'altro tenete presente, che appunto la trasmissione fa sempre dei riferimenti comunque per situazioni un po' disagiate e comunque da aiutare. Nel frattempo andiamo con Antoine da Milano. Pronto? Pronto. Come stai? Pronto? Bene. Stai bene? Sono nel traffico di Firenze, abbiamo appena finito il campionato italiano e stiamo tornando a Milano. Stai parlando di rugby subacqueo? Sì, ma vieni, vieni. Cioè, quindi allora, cioè, fammi capire, che cosa è successo oggi a Firenze? Allora, a Firenze ha vinto la Firenze per il secondo anno, ha vinto il primo posto. Al secondo posto abbiamo avuto Napoli con una squadra molto nuova, con tanti giocatori nuovi, che prende il secondo posto. Il terzo posto lo prende Milano, quindi è migliorato dall'anno precedente. Ecco, però al quarto posto c'è Prato. Ecco, tu lo stai dicendo come se nulla fudesse, ma stiamo parlando di rugby subacqueo. Cioè, capito? Sì. No, ecco, perché gli ascoltatori, forse un anno, cos'è che hanno detto di subacqueo? Esatto. Cosa? Cioè, forse è il caso di descrivere, spiegare in breve di che cosa stiamo parlando, perché non tutti sanno cos'è il rugby subacqueo. È uno sport che si gioca in apnea, nella vasca profonda della piscina, con due canestri da ogni parte, con una palla. È uno sport di contatto dove poi si fanno canestro mettendo la palla dentro. E la palla non galleggia, diciamo, è pesante, no. Resta sul fondo più o meno, giusto? Esatto, la palla è riempita di acqua salata e quindi va a fondo. Va a fondo, un po' come io quando tento di nuotare. In questo passaggio. No, però la cosa che ovviamente tutti quanti rende un po' problematica questo il concepire rugby subacqueo è il fatto che lo fate tutto in apnea, cioè quando manca l'aria. Devi risalire. Com'è, in apnea è sport di contatto, cioè quindi basta che uno ti tiene un po' più giù e tu svieni, cioè in questo caso. Allora, la regola principale, che è una regola di sicurezza, è che quello che non ha la palla non può essere attaccato, quindi se mi viene a mancare l'aria io lascio la palla, meglio se la passo a un mio compagno se e no. Vado a respirare. Ho capito. Ecco Antoine, scusa, una curiosità, voi avete, cosa avete, maschera, occhialini, pinne, niente? Maschera, pinne e basta. Ah, maschera e pinne ce niente li avete. Fucile e solo gli occhiali. Niente fucile e solo gli occhiali. Insomma, in questo è il concetto alla base. Vabbè, quindi stasera si festeggia? Esatto. Ah, ecco. Domani, vabbè, anche domani si festeggia, vabbè, insomma, ecco. Va bene, noi ti ringraziamo, grazie per questa informazione. Buonasera. Ciao, grazie. Ciao, buonasera. Insomma, informazione che vi sto detto. Stanno tornando in questo momento dalla vittoria. Sì, stanno tornando in questo momento, era in macchina Antoine, ci ha chiamato lui. Terzo posto per Milano, quindi Firenze ha vinto la Coppa Italia di rugby subacqueo davanti a Napoli, terzo a Milano, quarto a Prato. Bene, dai, lo dice una volta all'anno, scusa, lo dici male. Vabbè, due volte all'anno. Firenze ha vinto la Coppa Italia di rugby subacqueo davanti a Napoli, terzo Milano, di cui Antoine era uno dei giocatori, quarto Prato. I know I'm not supposed to cry, but these tears I can hold inside. Losing you, never let me see, 'cause you mean that much to me. You could have told me yourself that you loved someone else instead. I heard through the grapevine, not much longer would you be mine. Tanto per darti un'idea, cioè non è che abbiamo fatto questo collegamento casuale, cioè assolutamente involontario, però è venuta bene, perché noi parleremo appunto della Confederation Cup. Ora noi non ci saremo nella Confederation Cup perché finisce il campionato nella domenica, tutti in spiaggia, ci spiaggiamo. 19 maggio, 19 l'ultima maggio. Giornata del campionato. Ma ricordate che c'è un turno infrasettimanale all'inizio di maggio, mancano 5 giornate alla fine, di cui un turno infrasettimanale. Ecco, diciamo così, che però noi seguiremo su Face il tutto, cioè nel senso che i nostri commenti, se mai i nostri commenti vi possono interessare in qualche modo, noi li metteremo comunque su Face, anche tutta l'estate, gli acquisti, i mercati, i mercatini, i mercatucci, tutto quanto, dai vai, insomma, continua poi su Face. E questo quindi succede anche durante le partite di Serie A, siamo lì, si commenta, si scherza un po'. Cioè, le partite belle, quelle lì. Beh, tutte, vere, anche, è vero, Atalanta-Genoa ieri non abbiamo fatto niente, il segno di rispetto. Sarà, no, ci sarà un motivo, perché cioè, vale a dire, è veramente vergognoso il tuo comportamento. Vai, veloce sui risultati di oggi. Risultati di oggi, ricordiamo, alle 12.30 l'Inter aveva vinto sul Parma 1-0. Poi oggi pomeriggio ci sono state 6 partite, tante, perché di solito non sono così tante, ce n'è sempre qualcuno in anticipo posticipo. Bologna-Sampdoria è finita 1-1, Catania-Palermo 1-1, la Fiorentina ha battuto il Torino 4-3, il Napoli proprio in extremis ha battuto il Cagliari 3-2, Roma e Pescara è finita 1-1, mentre il Chievo ha vinto vinto a Siena per 1-0. Nicolò Davini, Mirna Soldati, Vittorio Cobianchi, altri hanno, come sono diventati amici, Freschi in questo caso, Gino Strada è ancora lì che sta cercando di comunicare quello che sta facendo, quello, le esigenze che c'hanno, che c'ha in questo momento Emergency, al quale noi ci appoggiamo, sì, nel senso, questo caso qua, siamo vicini ad Emergency, all'impegno che fa in tutto il mondo per salvare vite umane. La classifica di Serie A in attesa di Juventus-Milan, che si giocherà questa sera alle 20.45. La Juventus ha 74 punti, 8 di vantaggio sul Napoli che è salito a 66, il Milan è a 59, la Fiorentina è a 58, l'Inter a 53, la Roma a 52, una coppia di squadre a 51 punti, quelle che si sono incontrate ieri, proprio Udinese e Lazio. A 48 il Catania, 42 il Cagliari, a 39 ci sono tre squadre che sono Bologna, Parma e Chievo, 38 Sampdoria e Atalanta, il Torino a 36 e inizia la zona B col Siena a 30, Palermo e Genoa a 29 e praticamente già retrocesso il Pescara a 22. She stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Sai che non c'entra veramente nulla questa canzone con quello che stiamo andando a fare in questo momento? È vero. E non so cosa mettere di preciso, perché in questo momento qua non saprei, cioè, prima questa sai la canzone perfetta quale sarebbe? No, non voglio saperlo. Dai. Quella, Police on My Back dei Clash. Ah, quella là, vuoi mettere questa? Mettiamo questa, dai, teniamola, ce l'abbiamo qua, e quindi perché toglierla da qui? Perché l'abbiamo già messa, per questo che non volevo ripetere. Lo so, comunque lui ha 36 anni. Sì. E vive a Genova. Sì. Sovrintendente della Polizia di Stato, lavora nella caserma di Bolzaneto. Ha vinto la 25esima edizione del premio Italo Calvino. Calmatevi, vedo già gente agitata. Questa qua gliela dedichiamo soltanto a lui. Solo a lui. Ma secondo me questa versione non la conosce. Non la conosce. Loro sono gli Asian Dub Foundation con gli Zebda. Riccardo Gazzadica, pronto Riccardo, ci sei? Sì, ciao, ci sono. La conoscevi sto pezzo? No, perché io sono un ascoltatore di hard rock melodico da anni 80, quindi altra parrocchia. Proprio un'altra cosa, insomma, questa cosa qui, vabbè, sono cose che succedono. Avviso aperto. Coperto. Einaudi, stile libero, ben 19 euro, quante pagine sono? 540 circa. Sì. No, adesso dovresti saperle però. Precise. Abbiamo tante volte che sono 532, mi sembra. Ah, 532. Vabbè, sì, perché hai detto anche le note. Sì, ho letto tutto, ma soprattutto ho letto i saluti finali. Ecco, quindi... i saluti finali e ringraziamenti. E chi ne hai dati i ringraziamenti? A tanti, insomma, sì. Di che cosa? Sì, sono abbastanza limitati. Perché mi hanno chiesto di imitarmi, in realtà erano più lunghi, c'erano più pagine, alla fine poi sono rimaste due paginette. Amiche, certo, perché noi parliamo di questo libro? Perché parla di un qualcosa di particolare e di interessante. C'è stato già un film che in qualche modo ha parlato della polizia e del tifo, del rapporto tra poliziotti e tifosi, tra rapporto tra i poliziotti e degli ultra, esatto, no? In questo caso. Questo, no? Questo non è un saggio, perché presentato così sembrerebbe un saggio, invece è un romanzo in cui si vivono tutta una serie di storie parallele. Da un lato storie di agenti di polizia della Cellere che fanno il servizio stadio, e dall'altro lato quelli di un gruppo ultras di tifosi del Genoa. E Riccardo Gazzaniga, l'abbiamo detto, è un poliziotto, lui ha lavorato per molti anni allo stadio, giusto? Sostanzialmente è un po' in parte la storia della tua vita. Sì, allora io ho lavorato allo stadio per tanti anni e ci lavoro tuttora, nel senso che tuttora la domenica vado allo stadio a fare servizio, se non sono di riposo, come capita oggi. Ovviamente ci sono degli elementi personali che ho vissuto nell'arco di questi anni, però non è un saggio, nel senso che ho scelto proprio una forma romanzata volutamente, perché mi permetteva di raccontare magari degli aspetti o delle dinamiche che un saggio... che in un saggio si sarebbe perso, perché anche in ragione del mio ruolo avrei avuto poi dei limiti che invece il romanzo mi ha permesso di aggirare, e quindi nel romanzo ho potuto dire molto di più di quando avrei poi detto in un saggio. Ecco, senti Riccardo, ovviamente immagino che tutte le volte che tu dici dov'è che tu fai il poliziotto, e ti dici sono sovrintendente della Polizia di Stato e lavoro alla caserma Bolzaneto, punto. Pausa, sì, silenzio, gelo, questa cosa, sì. Tu prendi la tua piccozza e cerchi di rompere il ghiaccio. Che cosa fai per rompere il ghiaccio? Dici che cosa? Allora, vabbè, io cerco di spiegare innanzitutto che sono un lavoratore che cerca di fare bene quello per cui è pagato nel massimo rispetto della legge, ma al di là di questo cerco di spiegare che Bolzaneto è un luogo in cui sono successi fatti drammatici e senza dubbio da censurare, fatti che però poi non ha guardato il personale che effettivamente ci lavorava allora e nemmeno quello che ci lavora adesso. Soltanto un posto in cui sono successi dei fatti ad opera di altre forze di polizia, per esempio. Cioè è un luogo. E invece purtroppo questo luogo è stato associato poi a noi, che speriamo, e quindi è difficile in questi anni, specialmente in una città come Genova, che ha subito comunque il giro in una maniera pesante, che sappiamo, portarsi dietro sempre questo nome, ovunque si vada, ovunque si faccia servizio, perché io cerco un po' di superare, anche nel libro ne parlo in maniera abbastanza aperta e anche abbastanza critica di quello che è successo. Ecco, questo aspetto del G8 è un sottofondo nel libro, perché periodicamente ci sono personaggi che sono stati coinvolti, personaggi che hanno avuto dei parenti coinvolti, e ogni tanto torna a galla, perché è una cosa che ha segnato, sono passati 12 anni, però comunque ha segnato pesantemente la città. Sì, era impossibile parlare, ambientare un romanzo a Genova, parlare di ordine pubblico senza parlare di G8, e anzi, cioè io volevo parlarne in qualche modo, quindi ho scelto, non poteva che essere a Genova l'ambientazione, e il G8 non si poteva esulare dal parlare del G8, che in qualche misura il G8 coinvolse dei manifestanti delle aree molto, molto variegate, e anche una parte di tifo calcistico confluì poi nelle manifestazioni del G8, quindi anche in questo senso ci furono dei collegamenti che nel libro poi emergono in qualche modo. Senti, tu cosa ne pensi della tessera del tifoso? Allora, la tessera del tifoso, senza dubbio, con l'introduzione della tessera del tifoso sono stati limitati anche gli incidenti allo stadio, perché i dati parlano abbastanza chiari degli ultimi anni, però secondo me la tessera del tifoso in qualche misura ha finito poi per penalizzare anche tante persone che volevano andare allo stadio magari a farsi la trasferta nella propria città, quando la grande squadra a vederla, e tutto si è molto molto troppo anche a volte complicato, ecco, quindi in questo senso ci sono stati anche dei limiti, anche senza dubbio dal punto di vista dell'ordine pubblico i miglioramenti sono abbastanza visibili. Senti, tu dici che nella sostanza, da quel che si intuisce, siete diventati catalizzatori della violenza, nel senso che attaccare la polizia per quanto riguarda una frange di tifosi o di ultra non ha colore in alcuni casi, non è di destra, non è di sinistra, ex di G8 ma anche quelli di estrema destra, e contemporaneamente siete anche catalizzatori di violenza, della violenza dei tifosi, anche di squadre che si coalizzano magari soltanto per quell'occasione, cioè per venire addosso alla polizia, giusto? Ma perché è un po' un fenomeno quello del tifo degli ultras, diciamo che ha subito un cambiamento negli anni, mentre perché se negli anni 80-90 noi eravamo la polizia, noi era più che altro un disturbo, nel senso che si frapponeva fra le dirigenze, che interveniva per limitare certi episodi. Da quando lo Stato ha cominciato a percepire il fenomeno in maniera più diretta, automaticamente la polizia è diventata un po' il simbolo di quello Stato che cerca di fare il fenomeno, e quindi agli occhi dell'ultra il poliziotto è diventato poi il nemico principale. Quindi non è stato raro che in alcuni casi certe tifoserie durante magari uno scontro si siano poi addirittura unite con un nemico comune, che in quel momento diventava poi la polizia, rappresentante dello Stato. Ma quando diventa tutto una guerra tra bande? I ragazzi da Via Pala un po' cresciuti, insomma. Sì, nel senso che comunque l'aspetto del gruppo, dell'appartenenza, della banda, della ritualità, cioè, no? Anche nel rapporto tra bande, tra gruppi, è un aspetto importante. Forse questo è un aspetto ancora a volte dimenticato, nel senso si tende a vedere il fatto, lo scontro, l'episodio, ma poco si sa di quello che c'è dietro, che per quanto poi non può essere giustificabile, però ha in qualche modo delle sue dinamiche, delle logiche, che se tu conosci un po' quel mondo poi riesci anche a volte a capire prima. Un altro degli elementi che salta fuori e che ha cambiato un po' le curve è l'infiltrazione della criminalità. Cioè, una volta gli ultras non erano in alcuni elementi così vicini alla criminalità, e anche nel libro esce questo aspetto. Allora, l'infiltrazione della criminalità, nel libro diciamo c'è un personaggio che è più criminale, è più estremo nella sua condotta, però che è un fenomeno che dipende molto dalla piazza. Ci sono piazze in cui appunto ci sono state delle connivenze, delle collusioni, ma in realtà poi il vero, cioè, se vogliamo così dire, tra virgolette, il mondo ultra sarebbe un mondo che tenderebbe a dissociarsi dalle forme di criminalità organizzata. Quindi diciamo che è quasi, come si può dire, una deviazione poi di un certo tipo di mentalità di quel mondo che esisteva negli anni 80, che non avrebbe permesso certi tipi di criminalità curva o certi tipi di comportamenti, nel senso il discorso dei coltelli celeberrimo. Certo. È un discorso che appunto gli stessi ultra avversavano proprio fortemente, mentre negli ultimi anni abbiamo visto che questo tipo di per esempio di lesioni da coltello sono aumentate tantissimo. Senti, previsione della Coppa Italia, la finale di Coppa Italia, come la vedi? Tu dove la giocheresti, a che ora? La finale di Coppa Italia è sempre abbastanza delicata, perché il contesto, poi anche l'anno scorso il contesto di Roma con Juventus Napoli sarà, ho fatto anche servizio io. Ah, eri stato là, eh? Sì, era stato abbastanza complicato, c'è stato qualche momento di difficoltà. Senza dubbio, quando si vuole evitare un problema di ordine pubblico, la partita serale è da evitare. Quindi dici perché... buona l'idea di andare a Shanghai a fare la finale di Coppa Italia. Sì, no? Con quello diciamo che il pericolo è abbastanza limitato. Viene un po' controllata, e ho paura che tra l'altro lì non farebbero neanche tanto i Ganassa a Shanghai, cioè, nel senso che lì probabilmente l'approccio della polizia ha altre dinamiche. Senti, sì. Come si dice il linguaggio giudiziario, ti diamo la facoltà di non rispondere a questa domanda. Nell'ambito del libro c'è quasi una critica degli agenti nei confronti di alcuni funzionari. C'è un punto in cui si dice, il protagonista dice, Nicola, che è il protagonista, vorrebbe dare un calcio nel culo a Romanelli, che è il funzionario, e farlo volare via. Dovrebbero vedersela da soli i poliziotti, loro del reparto. Niente possiamo, non possiamo, niente paura delle conseguenze, niente cazzate, solo salvarsi la pellaccia e mandar via quella folla il prima possibile. Ecco, questo rapporto fra i funzionari e chi poi in realtà è di fronte con gli scudi, di fronte in questi incidenti con gli ultras, è veramente così? Allora, rispondere in tante vesti, più l'autore o la rappresentante sindacale. Facciamo l'autore, fai l'autore. No, ma diciamo, io intervisto l'autore, Ricky, non ti preoccupare, vai. Quello che io ho cercato di trasmettere, essendo appunto un romanzo, è stato un comune sentire che ci può essere nell'uomo che si trova poi effettivamente in strada, in piazza, a fronte a una persona, che magari vorrebbe avere degli ordini immediati, un tipo di risposta certa, invece... deve aspettare, non sa cosa fare, non gli viene dato un ordinativo chiaro. Ecco, quel momento è un momento di massima difficoltà. In quel momento la persona che è da tanti anni, che sta in piazza e che si sente comunque esperta, capace, sa cosa fare e non può farlo. Ecco, in quel contesto lì emerge quel fastidio, quella distacco tra il ruolo dirigenziale e poi la base, che è quella che effettivamente si trova lì. Bella risposta, mi piace. Ricky, volevo farti quest'ultima domanda, però sì. su questo piano. C'è una sensazione un po' strana, nel senso che caricare o avere degli scontri con gli operai, adesso ci sono gli spintoni alla San Raffaele a Milano, o qualsiasi altra manifestazione che non sia di calcio, politica, in qualche modo implica un qualche problema di attenzione, no? Nei confronti di quelli che si ha di fronte. La sensazione è che invece, quando si ha di fronte l'ultra, c'è un po' una sensazione di impunità da parte del poliziotto, cioè della serie che si sa che stragrande maggioranza degli italiani dice: beh, sì, dategliene di più, cioè, capito, no? Cioè, voglio dire, avrà immaginato probabilmente, sì, quando c'è stata l'Italia a Genova, che c'erano i serbi, che detto così sembra brutto, esatto. C'ero anch'io, c'eri anche tu, i tifosi, sì, esatto, serbi lassù. Io penso che la stragrande maggioranza degli italiani si sono posti questo problema: ma perché non sono andati lì a una fracata di botte? Ma anche perché poi l'hanno fatto, perché a un certo punto nella gabbia, diciamo, non si è andati leggeri, mi sembra, giusto? Allora, questo è un po' un paradosso che ho sempre colto anch'io, nel senso che a volte la singola manifestazione politica succede una minima problematica pubblico e dà un risalto magari enorme. Riccardo, puoi fermarti 30 secondi, rispondi, pensa bene a quello che stai per dire, e ti diamo la possibilità di riparlarne dopo il traffico, che è arrivato proprio in questo momento. Dai e vai, non è solo calcio. Avviso coperto, Riccardo Gazzadiga, che è qui con noi al telefono e quindi ci sta raccontando di questo libro, di questa vita vissuta anche all'interno delle forze dell'ordine, che ogni domenica si trovano a pensare di dover fare una piccola battaglia dentro lo stadio. E in questo caso noi ti abbiamo fatto questa domanda, cioè questo atteggiamento un po' diverso nei confronti della società civile, e comunque quello invece di poter calcare la mano, in questo caso calcare il manganello, nei confronti degli ultra, dei tifosi ultra. Allora, sì, quello che ti stavo dicendo è che c'è senza dubbio una sensibilità diversa sia dall'opinione pubblica che dagli organi di stampa, nel senso che a volte sono state situazioni magari che mi sembravano gravissime mentre c'ero dentro, tornavo a casa e dicevo: cavolo, non ne sta parlando nessuno, mi stupivo di questo aspetto. Quindi ci vorrebbe un maggiore equilibrio nel giudicare le situazioni, i comportamenti, anche i reati che vengono commessi negli stadi, dare il giusto risalto, e parimenti il comportamento della polizia deve essere comunque sempre improntato alla stessa maniera, perché è una manifestazione civile. Ma c'è un atteggiamento diverso da parte vostra anche? Ma da parte non ci deve essere, comunque la situazione deve essere analizzata per quella che è tecnicamente sul campo. Se quella è una situazione, tu la risolvi nella maniera più adeguata, senza stare, non dovresti guardare chi è, se è tutelato politicamente o meno, se è tutelato mediaticamente o meno. Tu dovresti operare sempre nella stessa maniera. Questo è il condizionale, dovresti, però poi nella realtà dei fatti è una situazione diversa, un comportamento diverso, ha una mentalità forse diversa di approccio alla situazione, al contrasto? È una non direi, almeno quello che io cerco di fare non è questo, ed è quello che cerco di raccontare poi anche nel libro. Senza dubbio però la situazione dello stadio per tanti anni è rimasta una situazione che quasi... un po' una terra di nessuno, da tutti i punti di vista. Poteva succedere qualsiasi cosa, insomma. E che poi non emergeva, comunque si sapeva poco. Invece poi uno dei vantaggi degli ultimi anni è che certe cose poi sono venute fuori, quindi c'è anche una sensibilità diversa da entrambe le parti adesso. Certo. Quello che si dice spesso è che allo stadio si fanno cose che nella vita civile comporterebbero denunce che in realtà non partono allo stadio. Sì, perché comunque anche le persone allo stadio, questa è una cosa che mi fa sempre molto notare, cioè le persone si permettono magari un comportamento che in un altro contesto non si permetterebbero mai, ma in certi contesti dello stadio diventa quasi un momento di sì, tipo quel signore anziano che a un certo punto se l'è presa con Galiani, insomma. Sì, quel signore anziano, il ragazzo che magari con la fidanzata che dice una cosa volgarissima che non direbbe, un po' questa sensazione di sfogo anche, no? Che per certi versi può essere alcune teorie, anzi è stata addirittura un po' un modo per incanalare, no? Magari negli anni 60-70 una certa tensione che c'era nelle piazze, e in qualche modo è stata anche una forma di sfogo, la forma della manifestazione sportiva. Grazie Riccardo, grazie per la tua telefonata, e soprattutto viso coperto e ben 19 euro e un Audi stile libero. Grazie, buona serata. Grazie, ciao, buona serata a voi. Ciao. Ricordiamo che oggi in tutto il mondo sono state ricordate le vittime di Boston in una serie di corse, manifestazioni al via a Londra, ad esempio durante la maratona ci sono stati 30 secondi di silenzio alla partenza, ma anche a Messina un minuto di silenzio di coloro che partecipavano alla Messina Marathon. In generale, ecco, oggi è stata una giornata in cui il mondo della corsa, il mondo dello sport ha ricordato quello che è successo questa settimana, lunedì notte alla maratona di Boston, con le esplosioni e le vittime. Queste sono, diciamo, alcune delle testimonianze che ci sono state. Ricordiamo invece altri eventi sportivi della giornata. No, se vuoi, figurati. No, se invece vuoi andare subito. Ma guarda, no. Ti voglio ricordare che Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain. Ma questo l'hai già detto, scusa, lo so. Cioè, che... No, bisogna comunque, dirlo. Scusa, Vettel... ma andrà a finire il tennis? Cioè, Cancellara viene qua, ci rompe sempre. A un certo punto, quando c'è bisogno di lui, per dire almeno due o tre titoli, per dare delle due o tre notizie, no? Ecco che sparisce. No? Cioè, è sempre così, sparisce. Inutile Cancellara. Eccoci qua. Brutte notizie. Sì, perché piove? No. Ha smesso di piovere. Pioggerellina leggera. Piove solo quando c'è un governo, quindi tranquillo. La Kvitova ha battuto Sarerrani, quindi al momento siamo 2-1 per l'Italia. Ricordiamo, semifinale di Fed Cup. Chi vince si gioca il titolo mondiale contro la vincente tra Repubblica Slovacca e Russia. Adesso attendiamo il... Per quelli che di tennis non si occupano, sì, la Fed Cup è una cosa importante, no? Assolutamente, è un po' il mondiale femminile del tennis. Sarebbe la Coppa Davis del tennis femminile. Ecco, poi altre cose, altri sport così che cioè oggi c'hai tediato con una l'America serie di sport. Scappa, l'America scappa. Luna Rossa Swordwish ha vinto la tappa dell'America Cup, che era a Napoli, agguantando all'ultima gara. Race, certo. E sì. Team Oracle, gli americani. Insomma, ricordiamo, cui, Luna Rossa. A o B, cioè non so, c'è cioè Swordwish, sì. quella lì, no? Che già ci sono dei problemi interni. No, noi siamo tifosi di entrambe le squadre di Luna Rossa, mamma per tutto mia, quello che è Italia. Cioè, come fai alla tua età essere così democristiano? Scusa, cioè date una calmata, aspetta un attimo. Ah, no? Ma poi c'è un altro. Avete già parlato di rugby subacqueo? No, cioè, il Milano. L'abbiamo già detto. Invece vogliamo salutare e festeggiare i giocatori, i tifosi del Latina che hanno pareggiato con il Viareggio 1-1 e hanno conquistato la Coppa Italia di Lega Pro. Bravo Latina, perché è la prima volta che il Latina, questa squadra del centro Italia lì dalle parti di Roma, vince un titolo, ecco. E vanno riconosciuti, ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro, brava Latina, grandi festeggiamenti, immaginiamo nelle strade di Latina tutti con le macchine a festeggiare. Stai tirando per le lunghe perché vuoi arrivare fino alla fine Paureggi e Pietro Lacorte, loro hanno guidato il mixer quest'oggi. Ci ha assistito amorevolmente Benedetta Acri e in redazione ha bighellonato più e più volte, dando notizie false e tendenziose, il nostro Luca Cancellara. È una cosa che voi non vorreste mai sentire, ma questa sera... Luca Gattuso e ancora una volta con Sergio Ferrentino. Buonanotte. No, volevo dire che questa sera parleremo dell'offerta misteriosa del Kazakistan che è arrivata dal Kazakistan per acquistare il Genoa. Che te ne frega a te, ma non no, è possibile. C'è l'offerta misteriosa. Ma scusa, ma tu non puoi parlare di questa notizia. No, tu non puoi parlare assolutamente di questa notizia, come tu ben sai. Smetti di muoverti e di portare via. Non è che devi pulire tutte le volte prima di uscire. Non è ancora finita la trasmissione. Sono una persona ordinata. Stai qua. Sì, sono ma stai una persona qua. Ai 57:40 comincerai a pulire. Comunque diciamo, noi questa sera torneremo ovviamente qui direttamente alle 22, tanto per capirci, ci sarà questa partita così, tanto per di media interesse, no? Sì, perché tanto ormai una squadra che ha già vinto il campionato, i giochi sono già fatti, come si suol dire, bisogna soltanto capire che cosa succederà. L'unico interesse di questa sera è capire se il Milan riuscirà a staccarsi dalla Fiorentina per andare in Champions. Ecco qua. Possiamo andare? Sì, andiamo, sì. Andiamo perché sta arrivando il GR, tra poco, ciao, ciao, anzi da stasera ci sentiamo. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi ha presentato Dai e Vai. Non è solo calcio.